le 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Lupo grigio, ci sei? Sì. Sveglia, sveglia, Caffè Mauro, svegliatevi ragazzi, sì. Che la frequenza bisogna occuparla, avanti, avanti Luca, buonasera. Sveglia. È Luca che ha mangiato scagliola, buonasera Luca, c'è anche Lupo grigio che pare, Lupo grigio. Ma sai che mi aspetta, arrivo subito. Il fischio si fa per far vedere che c'è gente, non c'è... Io lo stavo facendo il motivetto, ma tu non l'hai ascoltato. Sei bassino, sei molto basso, te lo stavo per dire. HK, vai, alza l'antenna. Ok, c'è cosa stai facendo, mascalzone, mangiando sta. Oh, attenzione, c'è qualcuno su questo canale? Canale? Aiutati, attenzione Marco Condor, ci sei, gambi. Vedi l'apparecchio quando riposi, peggio per te, ci sono io che ti faccio svegliare, buonasera. Io vengo lì, ho la torre, un po' antenna. Un po', deve essere un po' alto il trattore per buttare l'antenna via, che è al sesto piano. Vediamo la catena, neanche cosa, la catena direttamente. Così, ma il trattore c'è ancora. Piccolino, sì, ce l'ho, c'è piccolino. Quanto una macchina dai. Per farti la volettina, allora c'hai pezzamenti di terreno grande. Come sta, non va bene. Un ettaro. Appaga. E cosa c'è? Olive? No, quando qui salve di testa, poco mancano in testa. Poi spazio libero, con l'elicottero e c'è la fine messa, insomma. Però è andato male, perché ha bruciato tutto. L'anno scorso anche i figli sono andati male lo stesso. Aia, vabbè. Sarà per questa volta adesso, e magari ti ritrovi bene. Io la gamba me la sento più morbida. Adesso era un legno prima, adesso si sta ammorbidendo piano, sto facendo mosse che prima non facevo. Stiamo andando bene con la mia ginnastica, se aspetto la fisioterapista e andare. E quindi si può anche mangiare, dai, volendo, sei tenera, aspettiamo un altro po', quando è pronta, facciamo tante bistecche. Cazzo, non me l'ha accorto qua, proprio brutto, ha più brutto di giusto. Sì, sì. No, non serve, Giaffra, è molto muscolosa. È molto muscolosa la mia gamba. Non ti conviene a mangiare, ti neci di ricasciare. Facciamo un vomito, dai. 4-5 ore di vomito, va bene. Togli tutto il sapore, buono, capito? Se vuoi ti do il formaggio dei piedi. Dipende da quanto sei che non ti rilassi, perché se è roba recente va bene. Ah no, basta grattugiare i calli, va bene, c'è proprio è un bel profumo di parmigiano grattugiato. Io finiamo là che si sente tutti gli abbazzingari. Quando manco l'albero mi sembra sotto, com'è il un po' tasso non mi pare a te. Sì, anche l'antenna mi sembra, mi fa un fianco, è sempre storta questa antenna, non vedi di fianco e dritta, ma anche le immagini? Praticamente la mia, lo sai che quando non c'è vento non si corica come certe antenne, come certe che dicevano che si coricava anche se non c'era vento, la rimane bella dritta la mia. praticamente avevo tirato un tirante un po' di più, deve essere come ha fatto quel vento forte, ha mollato un po' il tirante, adesso è bella dritta, perfetta. Avanti, lupo grigio, buonasera, avanti, bello forte e chiaro, vai. Eh sì, sono qui nel mio regno, ormai dal terrazzo del mio regno, come mi ricevete, cambio? Io forte e chiaro, Santiago Lover Radio 5, cambio, cambio. Bene, bene, bene, ma sbaglio pure ha fatto qualche goccia d'acqua, che qui il terrazzo è tutto bagnato, cambio. Io che non si vanno a scivolare, volare. Stava dicendo così Gianfranco, io ero con il gatto, non mi sono accorto di nulla, mi ha fatto un bel pisolino oggi. E quindi non mi sono accorto se ha piovuto, però Gianfranco mi stava dicendo che ha fatto un bel acquazzone. Ma vabbè, chi c'è oltre a te, Gianfranco naturalmente, poi c'è la Luca, ha detto aspetta un attimo e si è allontanato. Avanti Gianfranco. Ciao Nicola, ben ascoltato. Sì, ha piovuto, guarda, 10-15 minuti fa. Io ho sentito il rumore, ho detto, boh, mi sembra acqua, perché stato facendo il lavoro là. Sono uscito fuori, alla finestra ho visto che è tutto un pantano qua. Quindi quando ha detto che è sul tetto, mi sono un po' meravigliato, ho detto, ma cosa vuoi, prendere l'acqua? Mi auguro che sia almeno protetto dall'acqua, perché qua tra poco c'è un cielo nero che si prende. Quindi, il segnale arrivi 9:10 qua. Scappa ricevuto, no, comunque almeno qui dalle parti mie il cielo nero non è. Insomma, non credo che adesso non sta piovendo, è vecchio Porto Torres, sembra che non ci siano nuvoloni. Speriamo bene, cambia. Speriamo bene. No, vabbè, l'acqua già ci vuole, certo non ci vuole così. Che se ne arriva e ti straccia tutto quanto. Sto dicendo a Gianni che quest'anno è stato un disastro. Abbiamo fatto l'otto, niente. Tempo perso e subito stato. Causa sempre cause climatiche. Riprendi Gianfranco, posso una domanda? Anche due. Ma interrogativo, tu abiti o hai comunque campagna, cambio? Sì, zona 127 bis. No, volevo chiedere, io sono un cittadino, la prima pecora l'ho vista qui in Sardegna, ma è vero che i pozzi si possono anche prosciugare, cambio? Beh sì, dipende anche dal tipo di pozzo comunque, dalla profondità a cui sono fatti. Qua non è mai successo, noi ce l'abbiamo, meno male, non sarebbe grave. Questo fa il nostro a 100 metri, quindi c'è la pompa sommersa che lo tira su, solo che terribilmente calcarea, ma calcarea proprio di quella calcarea, veramente che ti distrugge tutto, infatti per bere non si può usare. E quindi è così, ma finché fa questa pioggia già mi tira, non c'ha problemi perché rimane parecchio. Poi questo è un posto comunque che sotto ce l'ho fatta sicuramente. No, diciamo, ho detto questo perché c'è mio figlio che vuole acquistare una casa nel lago, in campagna, comunque isolata la vuole. Però c'è chi dice guarda che il pozzo si può asciugare, quindi poi devono venire la sua portarsi l'acqua, poi la forza biologica, attenzione, perché bisogna, insomma, l'hanno un po' spaventato. Guarda, c'è gente che, a parte che c'è gente che non capisce un tutto, sempre allarmista, no qua, no là, poi se ne va in condominio magari e bisticcia tutti i giorni con i condomini. E poi, diciamo, per quello che mi riguarda, io sono rinato, ero un condominio, sono stato bene per quasi 10 anni, all'11° hanno affittato, ne sono arrivati dei delinquenti, veramente hanno fatto un casino, le quattro ne bastano, quindi abbiamo preso armi e bagagli, via, cioè siamo scappati. E devo dire che qua per uscire, farti la passeggiata, insomma, secondo me non va bene la comprazione della campagna, se ho capito bene, non so se sia consiglio qui, ma fa benissimo, anche perché i prezzi adesso sono molto bassi. Certo deve avere la casa, a meno che non se la voglia far costruire, ma allora inizia a diventare costoso. E quello è un investimento. No, va bene, guardate, dico solo questo, poi lascio girare la ruota. No, ci siamo rivolti a diverse agenzie immobiliari e quindi adesso vediamo un po' cosa ci propongono. No, comunque lui se ne vuole andare in campagna per conto suo. Naturalmente dobbiamo cercare che non sia proprio isolato al massimo, perché poi nascono problemi, se si rompe la macchina e tutto il che. Va bene, grazie per l'informazione. Può girare la ruota, cambia. Gianni, riprendi. Io Gioffra, la campagna a me piace per una cosa, magari andare giù, fare una cena, fare una arrostita così e poi tornarmene, perché lavorarci in campagna non mi piace. E viene a avere anche la passione, capito? Se uno ha la passione, tanto di cappello, ma devi essere appassionato. Poi diciamo che ha bisogno di molta manutenzione, tagliare l'erba, fare questo e fare l'altro, c'è sempre da fare in campagna. Io lo so perché ci ho lavorato. Io avevo un amico, quando non c'avevo lavoro, lavoravo in campagna sua, c'aveva 7 ettari di vigna, c'aveva 4-5 ettari di oliveto sopra, era un grande, enorme. E tuttora, perché ce l'ha ancora, ci abita lui adesso. Prima ci abitavano i genitori e il nonno, adesso ci abita lui. E niente, c'è sempre da fare. E vendemmia, e portare la vigna, e questo, e quell'altro, e mettere concimi, di tutto e di più. C'aveva sempre da fare. E quando io non lavoravo, andavo lì e mi pagavano la giornata, naturalmente lavoravo in campagna, ma è pesante la campagna. Ui. A me lo stai dicendo, io sono sempre nel cono al lavoro e c'entro su un altro. Sì, è pesante, certo 7 ettari è una cosa enorme, non è da fare, diciamo è pesante dal punto di vista della manutenzione, però almeno sui soldi che spendi tu, non li spendi per regalare agli altri, che c'è sempre qualcuno che non paga, capito il discorso? Vabbè. E nel condominio, secondo il condominio, sono anche 200 euro al mese, se permetti da 200 euro al mese me ne faccio fuori da lavoro. Poi comunque vabbè, tu 7 ettari ha fatto un esempio esagerato, 7 ettari è una mezza azienda, guarda, un'azienda, ma qua un ettaro, ma ci sono, io ne ho visto tante campagne, ci sono veramente carine, ecco. Le tieni bene, se non ce la fai chiami qualcuno, che te la fa, già ci sono queste persone che vanno a sistemare tutto, una volta ogni due mesi, eccetera. Tanto mi si continua questo passo, l'erba cresce già secca, se ti fidi. 150 al mese. Quanto sei tu, Nico? 150? No, non io. Io pago poco perché ho il riscaldamento autonomo, l'ho messo io, pago 100 euro ogni tre mesi. Invece mia figlia, che ha il riscaldamento centralizzato, paga 150 euro al mese. E la casa è sua, praticamente mezzo affitto per il riscaldamento centralizzato. Io 120. Ma infatti se ci pensi un attimo è una razza, quindi un sacco di soldi. Tutto dipende da quanto è bravo lui a farsi i lavoretti da sé, se a me mi si rompe il cancello me lo riparo io, se ho un impianto di sorveglianza molto molto grosso, c'è qualcosa, anche ieri ci ho dovuto mettere mano. Me lo faccio io anche quello, quindi metto quello che voglio, ai prezzi che dico io, così. No, guai, se fosse a chiamare ogni volta qualcuno, dovrei essere Berlusconi praticamente. No, ma se mi permettete, lui non vuole la campagna grande, tu vuoi una casa singola, sempre isolata, cioè sola, con al limite un bel giardino, ma non più di tanto, perché effettivamente con gli orari che fa, mio figlio lavora all'Enel, che lavora dalle 7:30 del mattino alle 5 del pomeriggio, sabato e domenica libera, là non ha nulla, non ha neanche tempo di respirare, capito? Ma è così, ma è così. Cioè, se sono piccolo, guarda che ci sono molte occasioni in giro, perché quando sentono la parola terreno e quindi che bisogna inchinarsi, la gente scappa via. Io conosco gente che ha dei problemi proprio con la campagna, allora, vabbè, praticamente no, la gente la vuole gratis, quindi no, non fa, anche le agenzie hanno problemi a venderle. È più facile se c'è la casetta carina, se c'è, come dici, il giardino, allora puoi salire di prezzo, ma se è una cosa grande è un problema grosso, non si riescono a vendere. Anche qua ogni tanto a fare un cartello, vendi, che la maggior parte delle persone sono anziane, i figli preferiscono andarsene, non se ne vanno pure per lavoro, sai com'è, no? Si va via subito di casa e quindi rimangono soli, o addirittura vogliono e si riprendono tutto. Quindi è così, però diciamo, guarda, non c'è paragone, se ti piace l'aria buona, stare tranquillo, senza rotture di scatole, è l'ideale. Ma io spero che se la compro così mi ci vado a mettere io e ci mettono una bella antenna di quelle gagliarde sopra il tetto. Va bene, potete girare, cambio. Un attimo, aspetta Nicola, stasera. Mi senti Nicola? Sì, avanti. Ok, Luca, dove sta parte? Già, sono rientrato. Abbassa il microfono, Luca, mi sei pacche di luce. Ah, ciao, ti ho sentito che sei rientrato. Perché se no mi tocca abbassare quando parli tu e alzare quando parlano loro. Abbassa appena, che sei un bel alto. Sì, già è basso, boh. Ah, così alto, boh. E forse magari te l'hai avvicinato tu, non lo so come. Però è un bel forte, vabbè, noi siamo vicini anche, non è che... Sai cosa c'è? Che ho difficoltà a girarmi per abbassare il volume, mi viene male. Non mi posso girare perché è dalla parte che ho la ferita, quindi non posso girarmi. Ah, ok, da. Chi è che c'è? C'è Gianfranco con Lupo Grigio, io e tu e le rose. Ciao, ma Gianfranco, mi senti? Sì, un 9.10, 9.15 mi sembra, Luca. Io di lì. Ne approfitto un attimino per allontanarmi, perché devo fare un paio di telefonate, lavoro urgenti che siamo in mezzo all'emergenza, quindi ci sentiamo tra poco, appena mi danno il chiarimento, perché non funzionano alcune cose. Cappa, vai Gianfranco, tranquillo, siamo qua. Oh, Luca, dimmela. Lunedì io sarei dovuto andare al diabetologo, no? E mi hanno telefonato con l'appuntamento di non andare, che fanno tutto online adesso. Mi porta di tenermi i documenti davanti per dettarmi le cose, e non ci devi manco andare adesso. E come fa a controllare mia madre? Scusa, mia madre ha da altre patologie. No, io parlo del diabetologo, praticamente gli detti tutte, tu fai l'analisi del sangue. Emocromo, trigliceridi, gli detti tutti i valori che ti hanno trovato, no? Gli detti quelli, poi se ti serve il piano terapeutico lo spediscono direttamente tramite computer al tuo dottore. Ho capito, adesso vediamo, comunque loro non ci hanno detto niente. Non mamma ci aveva vista questo mese, sia dal diabetologo che per il pacemaker. Praticamente non lo so, però se lo stanno facendo per me perché io non posso andare. Gli ho detto che mandavo gente, dovevo andare una persona a portarla la roba, invece mi ha detto di no, di fare così che andava bene lo stesso. Allora già va bene, dai. Già andava bene, dai, già, ma tanto anche io 10 minuti li ho detto qui, già, insomma, quella roba fatto, ma c'è un po' di troppo usciamo, anche la famiglia, anche se non si può. Come non si può? Non si può. Perché? Perché paura del coronavirus? No, perché bisogna tenere la distanza, poi nei locali c'è al massimo 5 persone. Non ci andate nei locali, vi fate la passeggiata e via. È interessante che voi sappiate che uno con l'altro non ci avete la febbre, coso. Perché questa fessidia di stare lontano un metro l'uno dall'altro, come ti va se li ricupi che due drommi, i danuti, un metro dall'altro e lo sta. quello lì è solo per le persone che sono sospette, capito? Capito? Tanto la mia dottoressa doveva venire a controllarmi, non vi giunta, capito? Adesso la richiamo, perché cazzo c'è? Per lei ha paura del coronavirus, deve essere, sta facendo entrare anche dei pazienti a 3 a 3. Così funziona, dove qua. Dai, aspetta, arrivo subito già, riprendi Nicola. Sì. Gianni, ma tu hai il diabete, interrogativo? K. Ma quale, il 2 o l'1? Cioè insulino o pillola? L'2, 2. Anch'io ho il 2. Prendo la pastiglietta dopo pranzo e la pastiglietta dopo il tempo. E sto camminando molto a tenerlo sotto controllo, capito? Sì. Io faccio l'insulina la mattina, sì. Poi faccio l'insulina più la pastiglia, poi a pranzo faccio di nuovo l'insulina, poi a cena prendo due pastiglie solo e poi di notte l'insulina più la pastiglia. E diciamo che io lo tengo lo stesso abbastanza bene, massimo c'ho 130, però quasi sempre 97, 100, 99. Ricevuto, senti, ma tu cammini molto oppure no? Interrogativo. Io cammino molto quando lo posso fare, in questo momento sono fermo perché mi hanno operato e non posso camminare. Cammino in casa un pochino, ma poi mi stanco subito, capito? Quindi devo aspettare una ripresa. Io cammino molto perché c'ho il cane, vado a passeggio, vado anche lontano col cane, eccetera, eccetera, eccetera. Però adesso come adesso no. Naturalmente sì, dicevo che cammini molto quando puoi fare, questo è il segreto, camminare, poi questo maledetto diabete di famiglia, ho scoperto addirittura che al mio bisnonno nel 1900 è quello che gli aveva addirittura tagliato la gamba, questo l'ho scoperto da poco. E io c'avevo mamma che era diabetica, quindi... faceva sempre controllare, tutti gli anni facevo la curva a carico, non mi hanno mai trovato nulla, poi il medico del lavoro mi ha trovato il diabete. Lo so, io comunque, io ho avuto anche un infarto, probabilmente dovuto al diabete, non lo so, comunque all'atto del rinnovo della patente li ho dichiarati tutti e due, sia diabete che infarto, ho portato la documentazione, l'elettrocardiogramma che non sa poco, poi il diabete... la dichiarazione da che era tutto a posto, anche perché mi spiegavo che se io non lo dichiaravo e facevo un incidente con l'assicurazione, l'assicurazione non avrebbe pagato perché io non avevo denunciato di avere queste malattie. Avanti, che ha fischiato? Luca, tu sì. Vabbè. Quindi ti hanno fatto fare anche a te la patente per 2 anni. No, negativo, per 5 anni me l'hanno fatto, io l'ho fatta un paio di anni fa che quando ho fatto 60 anni, comunque. No, per 5 anni. Perché ho portato io tutta la documentazione, che era tutta a posto, tutta roba, diciamo, che dimostrava che potevo dire. Che non hanno dichiarato nessuna malattia. Non so. Cava. Sì, vabbè, ma l'infarto può venire a qualsiasi persona, non solo perché il diabete. L'infarto può venire anche a una persona che non c'ha nulla, ti viene un colpo e ci rimani pure, secondo chi è. Ma io la colpa è stata mia perché io fumavo 2 pacchetti al giorno. Era il lavoro che portava a questo, Portava a questo il lavoro, 2 pacchetti al giorno. Evidentemente mi è venuto questo problema per le sigarette, che ora naturalmente non è. Il fumo intasa le arterie, quello è il problema, che poi quando sono intasate le arterie non passa il sangue e succede quello. Il fumo è maledetto. E poi se pensi l'atto che fai è una fesseria, ti metti il fumo e mo che lo butti fuori, è proprio una cosa insignificante. Lo so, è un vizio che purtroppo si prende da ragazzino. Va bene, cambiamo un attimo argomento, se mi permettete. Io abbiamo fatto le prove con l'SSD e praticamente ti dicevano anche nel normale, giusto? Non ti ho capito, lupo grigio. No, allora volevo dire, ieri abbiamo fatto le prove, non mi ricordo con chi, che ha trasmesso in SSB e si sentiva anche nel normale AM, però si sentiva male, quindi volevo la conferma di questo. No, non ho capito la domanda perché stava parlando mio figlio e quindi non ho capito cosa ha detto. Allora, ieri abbiamo fatto delle prove, hanno trasmesso su questo canale in SSB e io ricevevo pure, non ricevevo male, ma ricevevo pure, quindi praticamente ho capito, io pensavo che modulato in SSB era una banda di frequenza bassa, non lo so, invece lo si sente anche da M. Ah, ma si sente confuso, ma si sente, sì, sì. Non so, l'ho sentito anch'io quando stavate facendo le prove. Ho capito. E poi leggevo su internet che anche se l'apparato è omologato a 4 watt, quando vai in SSB raggiunge anche i 12 watt. Sembrerebbe che sia omologato. Beh, in SSB solitamente i watt sono di più, in base alla penale. Però non lo so se gli omologati salgono di watt o meno, questo non te lo so dire. Ci sono gli omologati comunque che hanno le bande laterali, questo te lo confermo. Ma anche portatili, interrogativi? No, non so, non parlo di portatili, ti parlo di veicolari e di stazioni di base. Anche portatili. Con l'SFB ovviamente ha la costante abolita, quindi dovrebbe andare molto più. Portatili con le bande laterali, mai visto. Ma questo me lo ricordo bene. Va bene. Ma è entrato qualche altro oltre noi due? Natalino c'è? No, c'è un orecchio di porco che è entrato. Vieni Marco, avanti, avanti, Scusate l'intromissione improvvisa come sempre, ma c'ho il grattacielo in testa, mi sono alzato tardissimo, no, non mi sento tanto brillante. Comunque si conferma, ci sono portatili con le bande laterali, AM, FM, banda laterale, costosissimi peraltro, inutili perché con quelli sì che hanno 4 watt mi pare in SSB e non ci si fa niente praticamente. Il modello era un Albrecht, fatelo ricordare il modello, oppure Dragon, stesso apparato, portatile MFM SSB. Comunque non serve a niente al fine, per ascoltare forse va bene, forse. Riprendi Nicola, io non posso parlare perché c'ho da fare qua, dai. Sono stati costruiti da poco perché non ce ne sono mai stati con le bande laterali portate, se l'hanno fatti l'hanno fatti da poco. Avanti, lupo grigio. Avete parlato in due, è passato Gianni e non Nicola, vai Nicola. Mi stavo dicendo che probabilmente c'è qualche cosa d'acqua che sta cadendo, dalle vostre parti per caso sta piovendo. Ah, io non lo so, io sono barricato. Comunque se piove da te, piove da me, che siamo a portata ottica. Gianni, l'avevano fatti qualche anno fa, l'Albrecht l'ha fatto 3-4 anni fa, forse anche 5. Non so nemmeno se si trovi più, però è costosissimo, costava tipo 250 euro quando è uscito, è una follia. Con 250 euro ti prende un bel veicolare con le bande laterali, con tanti watt, no? Siamo capiti. Dai, vi devo lasciare, però rimango in ascolto. Ciao, vai Gianni. Ci dovrebbe essere anche Gianfranco. Gianfranco, ora ci sei? Sì, ci sono, ma sono al telefono per una cosa di lavoro. Ciao anche a Claudio. Riprendo. Claudio, mi hai chiamato? Ho detto ciao, ciao. Buonasera a tutti. No, già non li hanno fatti adesso. Qualcuno si è rimesso in gioco, ma io il portatile in SSB l'ho avuto subito dopo aver preso la patente dell'animatore, quindi sto parlando nel 92, ho preso la patente nel 92 e forse nel 98-99 l'avevo comprato da Mario Nozzari ed era un Uniland, non mi ricordo la marca, comunque aveva le bande laterali. Oh, Claudio. No, che salve, io pensavo che non ce ne fossero le bande laterali portatili, perché io ho avuto un top di portatile che c'aveva tutto Smitter c'aveva l'attacco per il microfono esterno, c'aveva l'attacco per l'antenna, era proprio il top, costava un bel po' di soldi, l'ha avuto anche Marco, lo stesso apparato, e quello lì, cavolo, mi sembrava il massimo dei portatili, non conoscevo portatili con le bande laterali, sinceramente. Beh, anche io ho avuto la Fayette 23 canali portatile, proprio col pomellino che girava, tutto illuminato, l'avevo comprato la Pinto di Scarpa in VHV, ma ti parlo quando abitavo a Polotrosi a casa di mamma, avevo avuto 16 anni, 16, 17 anni, c'era l'attacco all'antenna, infatti c'era una Grand Play sul tetto, e c'era il connettore con l'attacco all'antenna, e parlavo con quello, c'era 5 watt, ma di quello era solo AM, neanche FM, mi pare che avessi solo AM. Però quando in quegli anni lì, insomma, intorno al 2000, una cosa del genere, 99-2000, ho comprato a Mario Notario un portatile della Unile, che non mi ricordo più la marca, e aveva le bande laterali, lo ricordo perfettamente. Ciao Nicola, buonasera, ben sentito. E già non mi trattengo molto perché sto ancora facendo le punture, mi fa male la schiena. E stare qua seduto nella... è una bella sedia, abbastanza comoda, ma è dura. E quindi preferisco andarmene di là nel divano. Beh. Avanti, Nico. Sì, ti saluto, Marco. Ma come mai queste punture, se posso chiedere, ragazzi? Una forte lombalgia causata da tantissime cose quando lavoravo. E anche adesso, siccome ho ripreso a lavorare abbastanza, insomma, diciamo correttamente quello che facevo prima, forse anche di più perché è roba mia, quindi mi è tornata questa lombalgia fortissima e se non faccio le punture la mattina non riesco ad andare a far niente. Ora le faccio la sera, l'ho fatta toccarsi, però ho bisogno di stare sdraiato nel divano perché è abbastanza dolorosa, molto dolorosa, non è muscolo e rotere, è già il toradol con un altro antinfiammatorio molto forte e quindi mi fa un bel male, capito, stare seduto così nella sedia, nella poltroncina qua in sala radio. Quindi vi saluto, sono andato a salutarvi, vi ascolto in lontananza, lascio acceso. Ci sentiamo in altre occasioni, statemi bene, buona serata a tutti, vai già. Ehi, ciao Claudio, dai, Claudio, dai, siamo qua, se vuoi, mi sto facendo la puntura anch'io, meno male me l'ha mintato. Ehi, vabbè, no, io non me la faccio, mia figlia se la fa da sola, ma io non le fa mio cognato. Va bene, dai, allora ciao anche a Marco, buonasera, ben ascoltato, chiunque fosse sul canale 10. Mi ritiro per deliberare, buonasera a tutti, vai Nico. Sì, buonasera, coraggio, coraggio, che anch'io facevo... Ciao Claudio, ciao. E Boser. Ciao Marco. Siamo rimasti solo io e Gianni, giusto? Sì, aspetta, Gianni sì, penso che si stia facendo la puntura, che forse si è ricordato che deve fare la puntura anche lui. Dai, ci sentiamo dopo ragazzi, statemi bene. Sì, va bene, ciao. E quindi Nico, scusate, visto che sono, che vi state allontanando, Nico, sì, esistono, però ricordati, la frequenza è la stessa, cambia il modo di emissione, che può essere MFM o SSB, divisa poi USB e LSB, frequenza, vabbè, il canale rimane lo stesso, chiamiamolo canale, ok. Sì, guarda, c'è tuttora in vendita quel portatile, costa 239 euro più la spedizione, è omologato, volendo espandibile, però, cioè o uno lo mette con antenna esterna o non ci fa nulla, poi con 4 watt cosa si fa in SSB? Vabbè, propagazione permettendo qualcosa la fai, ma è costoso, dai, non c'ha problemi, piccole cose risolte, troppo costosi sono, dai, non ne vale la pena. No, no, effettivamente sì, comunque se compro un altro portatile, se lo compro, quando un attimino mi riprendo, diciamo economicamente, mi compro un veicolare, padre. Un veicolare, però vorrei un veicolare estraibile, se non lo voglio lasciare in macchina, perché ho paura che me lo rubano. Quindi un'antenna esterna e un apparato radio estraibile. Ma secondo te esistono con questi veicolari estraibili, capito? Sì, sì, ci sono veicolari a norme DIN con lo stesso dimensione dell'autoradio, però cioè, o rinunci all'autoradio oppure hai un altro spazio per un'altra plancia che ti danno col baracchino per inserire questo baracchino estraibile, capito? E tu come la macchina come ce l'hai? Perché rinunciare all'autoradio è brutto anche, ma poi dipende dai gusti. Ma prende la 48, c'ha le piste, cavolo, non prende l'estrae, non la BV. C'è la 48, quello normale che si può estrarre tranquillamente. Tre parti, e poi sotto la radio c'è un vano portoggetti che io in effetti non utilizzo, quindi se le misure lo permettono potrei metterlo lì. Gianni. Diceva un Allen 48, no, ma lui non interessa anche con la staffa da svizzare, i pomelli laterali, proprio tipo autoradio, inserisci, disinserisci, senza dover svizzare, svizzare l'antenna dietro, aprire i pomelli, cioè, ci sono estraibili, certo non sono Mark Albrecht, sono, no? Vanno bene più in FM che in AM, omologati, poi escono come escono, però ci sono. Gianni, guarda che c'è due messaggi, due foto, quel modello che ti dicevo, che avevo segnalato a Nicola, c'è tuttora, costa 239 euro, più la spedizione ovviamente. Marco, io sì, adesso vado a vedere, io penso che questi estraibili, come stai dicendo tu, poi diano problemi, perché a furia di inserirli e disinserirli si allargano i fori, eccetera, eccetera, non toccano bene, farò farsi contatti e via dicendo, no, così non ne avrei mai messo. Beh, magari con un minimo di attenzione, cioè inserirli e disinserirli piano, no? Come fanno certi, strazzatura, come diceva Natalino per altre cose. Poi se tanto mille autoradio bene o male sono collaudate, non so che attacchi abbiano dietro, le lamelle che hanno, come sono disposte non lo so. Vabbè dai, mi devo lasciare che devo scaldare la roba qua. Oggi giornata strana già, mi sentivo con i grattacieli in testa, avevo c'ho tutto raffreddo, infatti mi accendo la stufa di brutto. Vabbè dai, non vi voglio assillare, vai Nicola. Ricevuto, bene Marco, tranquillo, non ti preoccupare, però allora intanto c'è al limite, lo vorrei mettere volante, cioè lo appoggio così nel vano con l'antenna quella esterna, e per quanto riguarda l'alimentazione volevo prenderla tramite la spina quella accendino, no? Quindi secondo te potrebbe funzionare, capito? Aspetta un secondo. Allora scusate, vendono Nicola, vendono la plancia estraibile di quelle autoradio vecchie, gli dici, che la voglio mettere sulla tappa del baracchino e te lo fai estraibile, ce l'avevo io così. Ah, ben sentito Natalino, bene, ma comunque non voglio fare un stanno a tutto, non ho paura, ovviamente io la macchina al posto della notte, non vorrei che mi spaccano il vetro per prendere il baracchino. Io ho detto che c'è quella plancia estraibile dei modelli vecchi di autoradio, te la ricordi quella che era in due pezzi? Uno va attaccato alla macchina e uno alla staffa del baracchino. Tu prendi, tiri la maniglia e ne esce il baracchino. Capito? Sì, capito, questa è una buona idea. Poi l'alimentazione al limite la potrei prendere da direttamente dalla batteria e l'attacchi alla plancia, così quando entri l'autoradio si inserisce anche automaticamente l'alimentazione, perché io avevo fatto così, era tutto estraibile il mio, tiravo la maniglia e ne usciva il baracchino e me lo portavo via. Bene, ora devi pensare. pare che a me al posto della moglie mi hanno rubato l'antenna della forza. Hai capito? Prendi l'antenna, te la metti magnetica e ogni volta nella togli e la metti nel cofano. Molto ci vuole. Sì, ma infatti io non ci lascio niente in macchina. Ripeto, guarda, vergogna, ti sono rubato. Mi hanno schizzato l'antenna della forza e poi l'ho trovata da usare per 8 euro. Però mi è distraccato poi mi hanno rubato i denti cristalli e meno male che mi sono accorto perché stavo accendendo i denti cristalli e mi avrebbe già scato il vetro. Infatti a me me l'hanno fatto un giorno che stavo facendo neve, mi hanno tolto i denti cristalli dalla macchina, ho dovuto chiamare un amico mio per accompagnarmi a prendermi i denti cristalli nuovi, se no non potevo camminare che c'era la neve, la macchina era tutta ricoperta di neve, un macello. No, ma io non me ne ricordo, perché ne ricordo a mia moglie, perché siccome stava piovigginando, stava accendendo i denti cristalli, e meno male mi ha bloccato, altrimenti avrebbe graffiato tutto il vento. E questo è il problema, tanto. Infatti, io lo so, è successo a me, quindi lo so. Va bene, comunque qua dal terrazzo vedo, insomma dalla parte di Porto Torres, il cielo è relativamente libero, ma dall'altra parte, tanto per capirci, zona carbonato lì, il cielo proprio nero, nero, nero. Dice che ha piovuto poco fa. Sì, dopo infatti quel terrazzo dove sono io è mancato. Ci sarà tutto tempo. Comunque, per notizia, hanno sospeso la sagra del Carciofa Ugli, non si fa più. Buonasera Natalino! Ciao Gianni, non si fa più per questo cavolo di coronavirus, molte cose hanno bloccato. Lo so. Mi sembra, ripeto, di leggere i promessi sposi quando parlava della peste del 1630. Uguale a uno. Non c'era cura e le persone morivano come morti. Neanche questo, per fare un vaccino ci vorrà un anno. Il virus già l'hanno isolato, quello il ceppo italiano, però per fare il vaccino ci vogliono sperimentazioni e male varie. E dice che ci vorrà un anno per fare un vaccino. A quando a fare il vaccino il virus è già passato. Ma tu diceva mio fratello che sta a Milano, che è un medico che ha riferito che questo coronavirus è una influenza molto grave, che come tutte le influenze in estate è finito. Speriamo che sia così, così almeno in estate finiscono i contatti. Perché il caldo lo fa morire il virus, capito? È il caldo che se fa poco poco nelle giornate calde lo vedi come il virus scompare. Ma speriamo bene, perché guarda, è veramente preoccupante. Cioè uno non si pensa perché non si pensa perché già in Sardegna non ci sono casi come Milano, ma a Milano c'è da preoccuparsi veramente. Lo credo, lo credo. Caro Nicola, siamo messi male. E anche l'economia sta andando a farci fottere, scusando la frase. Beh, certo, guarda, io sono stato in agenzia di viaggi adesso verso le 5 del pomeriggio per vedere se mi rimborsavo i biglietti e ancora no, speriamo che il governo di Monica dell'Italia arrivi a risolvere, mentre le altre volte l'agenzia di viaggi era piena, una volta mi ha fatto impressione vedere una coppia che organizzava un viaggio in Cina, no, che anche a Palafosso, ora non c'era nessuno, completamente vuoto. Tanto sono bloccati i voli per lì, sia in entrata che in uscita, e quindi è logico che le agenzie di viaggio sono vuote. Poi ci sono i ristoranti, c'erano ristoranti che erano sempre pieni, cioè che non ci va più nessuno. E uno di questi ristoratori era preoccupato, io devo pagare le tasse, devo pagare gli operai, come faccio se non lavoro? Anche lui aveva ragione. Ma io spero che il governo possa aiutare in qualche maniera queste persone, perché effettivamente non è tanto bello, perché ma comunque se noi pensiamo anche ai tram, agli autobus di città, specialmente la mattina io vedo la 25 viale Trento, che praticamente è pieno come un uomo, viene come un uomo, e allora che fa? Le persone non devono viaggiare. Però purtroppo le regole dicono che devi stare un metro uno dall'altro. Come si fa? O mettono più autobus per consentire a un certo numero di persone di entrare e basta. E devono stare tutti lontano, perché sennò si beccano il contagio. Un metro uno dall'altro bisogna stare, dice. E l'autista è quello che è più sottoposto. Non si può stare neanche al cinema, perché c'è il cinema moderno, io ci sono stato, praticamente i sedili sono attaccati come tutti i cinema, uno accanto all'altro. E allora che faccio? Chiudo anche il cinema, non mi risulta a me. Sì, li hanno chiusi, cinema, teatri, dove c'è assembramento di gente non bisogna andare. Li hanno chiusi i cinema e i teatri lo stesso. Hanno rinviato la gara che facevano le donne, cosa ti posso dire? Dove c'è assembramento non ci devi stare. E quindi mi stai dicendo che hanno sospeso anche la gara, la corsa in rosa che partiva da Piazza d'Italia il giorno 8, giusto? Sì, l'ho visto in televisione oggi. Dove c'è assembramento non bisogna andarci, perché il virus è già a nuvolo. Quando arriva qui lo sappiamo che ore sono. Io vorrei capire com'è possibile una virulenza del genere. Com'è possibile? Anche perché da quando è successo questo dramma uno sta attento. E io oggi ho visto un amico, mi stava dando la mano, scherzando, ho detto mettiti a un metro di distanza. Ma insomma, speriamo bene. Sì, infatti, addirittura in chiesa, non vogliono andarci a fare il segno di pace, perché non puoi dare la mano alle persone. E l'ostia in mano, non più in bocca, finché c'è questo virus. Ma te l'immagini? Perché è aggressivo questo virus, sembra così, ma aggredisce i polmoni. Sì, ma il prete in mano la prende l'ostia, quindi potrebbe contagiare il prete ai fedeli. Perché il prete, lui si sarà disinfettato, no? Sì. Cazzo, mi disinfetto io e non si disinfetta il prete. Io mi ho fatto, e allora, la mucchina ci vuole, non l'alcol. L'alcol, no, digli che ci vuole la mucchina, perché l'alcol non è un disinfettante, è uno sgrassante. Digli così tu al prete. L'alcol brucia, non disinfetta. Però, bene o male, rompe le pareti cellulari del virus. Bastano pochi minuti, scappa. Avete parlato in due? Ho fatto 2 litri di ammucchina, proprio per disinfettare, che non si sa mai. Ma guarda, io l'ho comprata alla Conad, qualche giorno fa c'era un intero scaffale pieno, l'ammucchina quella grande, a 5 euro, cazzo. Ma non si sa mai che se adesso aggrediscono anche i supermercati e se la portano tutta via. Ma io già ho quella concentrata, la diluisco e me ne faccio quando voglio. Ma guarda, io personalmente mi lavo le mani con il sapone di Mattia, quello con cui lavo i panni, perché io praticamente l'intimo mio me lo lavo a mano io con il sapone di Mattia. La cosa importante è che suggerivano bisogna pulire anche l'interno delle dita, cioè tra un dito e l'altro l'interno. L'hanno detto bene, il sapone è ottimo. Ma se usi la mucchina è meglio, che disinfetta. Io me ne ho fatto e ne ho ancora di quella concentrata un mese. E me ne posso fare quanto ne voglio. E come la fai? Rumacchini, Rumacchini. Come la stai attento, cosa Rumacchini? Che non c'è da scherzare su queste cose. Io mi lavo spesso le mani anche per abitudine. Però adesso mi metto una mucchina proprio per disinfettare. Ma come la fai la mucchina? C'ho una mucchina concentrata, ti sto dicendo, l'ho comprata in farmacia. E me ne ho fatto 2 litri adesso. E però è pieno quello concentrato, capito? Me ne posso fare quanto ne voglio. Ah, ho capito. Pensavo che l'avevi autocostruita con quelle etichette di alcol, sale, acqua, eccetera, eccetera. Anche così si può fare. È molto semplice, basta prendere la candesina, prendi una siringa, ne metti 2,5 di candesina in 1 litro d'acqua, prima la fai bollire l'acqua, no? Per essere distillata, e poi ci schiaffi la candesina, ecco fatta una mucchina. Roger, hai ricevuto una domanda e poi faccio girare la ruota. Una domanda io non ho mai potuto capire, nessuno, neanche al supermercato me l'hanno saputo dire. Ma tra candeggina e varechina è la stessa cosa o no? La stessa cosa. Ipoclorito di sodio, normalmente detto varechina. La varechina vera e propria è la varechina pura, pura, quella che non è diluita. La candeggina diluita, c'è quella differenza lì, sta lì. Se per dire tu c'hai dei muri che sono con la muffa, roba del genere, devi comprare proprio la varechina. La varechina è quella senza diluire, però devi andare delle dite dove la fanno, perché poi quando la mettono in vendita si diluiscono anche quella. È logico, vuole concentrata, infatti io la mucchina perché l'ho presa concentrata, proprio per quel motivo, così io la posso diluire e me la faccio la mucchina, molto ci vuole. Adesso ti chiamo Heisenberg. Vai, abusivo. Masnata chimici, Natalino Alfa 1, Masnata chimici. Ti è piaciuto già l'apparato? Siamo tutti esperti in chimica, oltre all'elettronica anche in chimica. Gianni, ti è piaciuto l'apparato? No, non mi piace, sinceramente. Devo essere sincero, non è il tipo di apparato che piace a me. Io ne ho avuto diversi, qual portatile che avevo io, 80 cariche, ne ho avuto anche tu, era 3 volte meno. E Dynacom, ma quello era una favola di altri tempi, però quello sai che mi aveva infiammato anche a me, poi però ho ragionato, calma e gesso, in portatile non serve a niente perché arrivi da qui a 1 chilometro, non li metti antenne esterne, però poi ho letto che aveva anche piccoli problemini mai risolti e quindi va bene, riprendete. Io quello che ho della Inte, che è buonissimo il portatile, sono arrivato anche a Porto Torres, figurati, c'è un antennino di gomma, non c'ha di quelli che si allungano, ecco, un antennino di gomma, e andava. Che modello era? Non mi ricordo il modello, qual era, quello grigio o quello nero? Quello grigio. Allora, io ho avuto lo stesso modello nero MFM, però poi l'avevo regalato a Pomponi, mi pare, o a chi l'avevo dato, perché non mi ci trovavo, Antonio, cioè, dal max come a quello c'è un abisso infinito proprio di tutto, di modulazione, di antenna, non mi ci trovo. No, a me dicevano tutti che la modulazione era forte e chiara. Tu mi hai sentito con quell'apparato, Marco? Ti ripete dove vai, che zona vai, a volte arrivavi più forte a produttore che a Sassia. Dipende dalla zona, tu sei anche favorito perché lì è impressionante. Ti ricordi cosa ho detto una delle prime volte che sono sceso verso casa tua? No, che si vedeva il mare, ho detto, caspita, c'è il mare davanti tu, è spettacolare. Sì, ti affaccia alla finestra e vedi il mare, tranquillo. Oggi è bella come visuale, è bella la vita. Si vedono addirittura le barche, Marco, le barche che pescano, anche la sera al tramonto mi si vede. Dai, adesso non voglio monopolizzare, comunque mi ricordo portatili ne avuti tanti, no, dagli anni 80 in poi. E quelli, i migliori in assoluto comunque erano sempre quelli con l'antennone telescopico 1,20 m, 1,30 m, adesso non è che l'abbia misurato proprio. Come hanno iniziato a fare tipo l'Handicom 90, tutti quelli con l'antenna caricata, ho visto un drammatico calo delle prestazioni, eccetera. Ne ho cambiati tanti, ma tutti rivenduti perché non mi ci trovavo bene, purtroppo. Purtroppo è così, dai, prendete. Errori che si fanno nella vita. Avanti a chi tocca. C'è anche Gianfranco, non so se ha smesso col telefono. Chiamatelo che è rotta. Più corta è l'antenna e più poco imbatte. Se tu la carichi non imbatte un cacchio, diventa tipo carico fittizio. Invece se è lunga la frequenza sua, allora sì che imbatte. Guarda lì, la mia è corta di gomma caricata. Sono arrivato anche a Porto Torres. Mi ha sentito Tigre, Sandro Tigre, a Porto Torres. Ma ti senti papà sommato sicuramente, perché o eri in un punto molto alto oppure da cucciava basso. A chi già arrivo basso io a Porto Torres, con l'antenna e l'antenna capicchiuri, a fatti un conto. Perché ce l'ho in basso io l'antenna e arrivo basso a Porto Torres. Praticamente ero nella strada che porta al monte, ce l'è presente, la strada che sale per andare al monte da casa mia. In quella strada lì ero col cane e mi portavo l'apparato appresso e modulavo, continuavo il QSO dalla strada. Io lo credo, in quelle zone è alto. Perché se no, se tu sei in basso e in più c'hai un'antenna del genere, è logico che non imbatte. Beh, portateli poi sempre, lasciano il tempo che trovano, non è che siano apparati. Sì, dai, sono portatili, anche quelli VHF sono così, la stessa cosa. Solo che per imbattere i VHF hanno i punti ripetitori, capito la cosa del discorso? Infatti, se usi il ponte è ok. Lupo grigio, tu portateli, ne hai manovrato il corpo carabinieri. Beh, quelli sì, però vanno con i ponti ripetitori, quindi non cambia nulla, l'importante è che beccano il ponte. Comunque volevo dire una cosa, se Marco Condor è in ascolto, per quanto riguarda l'antenna mia telescopica, che rende meno di questa che ho ora, effettivamente il confronto bisognava farlo, dovevo farlo con l'antennino di 20 cm. Ed effettivamente facendo il confronto con quell'antennino di 20 cm arriva molto più lontano e non lo dovevo fare il confronto con questa che tu hai adesso installata. Infatti, perché quella è più lunga. Marco non si sente in forma adesso, che stava in ascolto. Sì, ok, scusa Marco, dopo poi ne parliamo dopo. Comunque la prossima volta voglio fare la prova mettendo l'antenna telescopica, quello che ho acquistato online, dove garantivano una resa 3 volte superiore. Ma effettivamente 3 volte superiore rispetto all'antennino standard, che è di 20 cm, mentre io adesso sto modulando con un altro antennino, sempre della Midland, ma di 50 cm. Beh, infatti, più lunga è l'antenna e più in basso, no? Non puoi confrontarla con quella di 20 cm, è logico che quella di 20 cm in basso di meno. Quella è già 50, figurati, c'è la carica più lunga. Ma cioè che non si trovano antenne telescopiche, l'ho trovata per caso, in una ditta, non mi ricordo dove, di Padova o di Vicenza, ed era l'ultima che aveva. Però facendo prove con Marco praticamente va meglio questa antennina di gomma di 50 cm che non l'altra, quella telescopica che credo che sia di 1,70 m o qualcosa del genere. Oh Nico. Sì. Come ha detto Natalino, più lunga è, no, naturalmente che sia risonante meglio va. Se quell'antenna lunga va peggio dell'antennina in gomma, cioè se va peggio di quella corta vuol dire che non è risonante, in pratica avrà un mare di stazionarie, di onde stazionarie e non rende per quello. perché se poi le vai a controllare con rosmetri, con strumenti di misura, vedi che magari risuonano ai 28 MHz, ai 26, chi lo sa dove risuona, non si sa. Bisognerebbe usare strumenti di misura buoni anche. No, però vedi Marco, io ho fatto il raffronto, quando abbiamo fatto le prove con te, il raffronto con questa antenna con cui adesso sto modulando, che è di 50 cm, ma in realtà il raffronto dovevo fare tra la telescopica e l'antennino di 20 cm, quella dotazione standard. Effettivamente l'antenna telescopica va più lontano di quell'antennino che l'ho provato. Però in fin dei conti quella da 50 cm è la migliore, sicuramente ha meno stazionarie e più centrata in frequenza, diciamo, dai. Si suona meglio, ecco perché va più lontano, perché si suona meglio nella frequenza e non è piena di stazionarie, quella telescopica bisogna vedere dove si suona. Per tutti i portatili che hanno l'attacco PNC, probabilmente non è centrata bene, non suona bene nella frequenza resistente. Proprio così, non risuona nella frequenza della 27, magari è per VHF quell'antenna, chi lo sa dove risuona. Guarda, quando ho telefonato, perché io ho previsto telefonare prima di acquistare, mi ha garantito che era per la 27. Mi sono fidato, l'ho comprata, e però in confronto a questa va peggio. Questa che ha detto che quella, vabbè, la userò di sempre. Infatti quella di 50 cm risuona meglio, vuol dire. Certo gli attacchi lo strumento di misura, te ne accorgi. Vabbè, ma comunque guarda, con questo portatilino diciamo che qualche piccola soddisfazione ce l'ho, sempre un portatile è. Però qui dal terrazzo, praticamente che ho vedo mezza città di Sassari, mi dà buone, diciamo, soddisfazioni. Poi la prossima settimana mi metto a camminare per la città e me ne vado a cercare che non me ne vado al Belvedere di San Francisco per vedere un attimino come è. E al Belvedere di San Francisco vai, lì pronto. E sì, prendo la macchina, vado con la batteria, mo adesso ho la batteria dentro il borsello, quella da 12 volt, che in realtà è 13 e qualche cosa. E quindi riesco a modulare meglio. Invece con la batteria tua, origina col pacco batterie, non arrivo neanche a 11 volt, che sono 8 batterie da 1,2, che sono 9 volte e 6. Lavori fra da subito, poi. Lo so, Nico. Purtroppo è così. Se non è che ti fai un attacco dove c'è il sacco batterie, gli metti un filo e l'attacchi alla tendizia della macchina. No, ma guarda che in dotazione nella scatola quando l'ho comprato c'è la finta batteria con il cavo e la spina che metti nell'accendino, e io sto modulando con questo. Io praticamente nella mia batteria da 12 volte che ho comprato da Fusaro, io ho collegato una presa di batterie e sto usando la finta batteria in dotazione e ho collegato la spina alla presa dell'accendino, quindi tutto qua. Il battery eliminator Natalimi. Già ho capito cosa fate, se no se lo faceva qui era uguale. Comunque se ce l'ha già in dotazione. E diciamo da questa parte di eliminator esce fuori anche la femmina del PL. Quindi io posso collegare tranquillamente o un'antenna di barra fissa o un'antenna veicolare, tutto diciamo in dotazione. L'unico neo di questo portatile è che dovevano fare il pacco batterie da 10 invece da 8. Perché le consumi anche subito le batterie, perché in trasmissione assorbono molto, capito? E allora ci mettono poco a scaricarsi. Allora io ho anche telefonato alla Midland e nel pacco batterie, quello dove andrebbero le ricaricabili, che c'ha anche l'alimentatore per ricaricarle, quindi io ecco, posso anche mettere invece delle quelle ricaricabili, posso metterle alcaline naturalmente senza collegarci l'alimentatore. E lì praticamente arriva a 12 volt, perché 8 batterie da 1,5 moltiplicate 8 sono 12 volt. L'ho fatto, ma nel giro di un'ora me le ha consumate tutte. Infatti, quando va in trasmissione c'è assorbimento e quindi si scaricano prima. Non puoi pretendere. Se devi modulare è meglio che si che l'attacchi alla 15 gradi della macchina, oppure avere una batteria di quelle grandi come quella che c'hai tu e le attacchi lì. Se no ci mette le batterie, non ti conviene neanche usarle quelle lì, che ci mette poco a scaricarsi. Lo so, vado avanti così con il piccolo portello, con questa batteria al piombo da 9 amperore, che la voglia di parlare. Scusaro Antonello, ma ho venduto il caricabatterie da muro per batteria al piombo, quelle tanto per capire che hanno le piste di testa, quindi io ogni volta che finisco di parlare me ne scarico e sono operativo al 100%. Comunque dai, io devo fare qualcosa per cena e vi lascio, rimango in ascolto al limite, però non riprendo più, salutando tutti, anche gli ascoltoni, alle prossime. Ciao Taliccia. Ma vado via anch'io, sono le 19.30, lascio il terrazzo che ormai è diventato la mia seconda casa, anche perché comincia a esserci un po' di freddo. Ci sentiamo alle prossime allora, buonasera a tutti. Ciao anche a te Lupo Grigio, ciao Natalino. È rimasto qualcuno? Ciao Natalino, ciao Lupo Grigio, dai, alle prossime. Sì, ci sono io, ma non durerò molto. Naturalmente già, se noi volessimo consigliargli un apparecchio carino da mettere a casa, no? Quando mette l'antenna, che cosa consigliargli? Cioè io non me la sentirei di consigliare tipo il 48 attuale. Bello era quello che hai avuto tu o che hai ancora, il 29LX, come si chiamava? Quello era veramente un bel baracchino, diverso dagli altri. Poi i gusti sono gusti, c'è a chi piace più il 48. Quello costava anche un meme, Marco, oltre i 200 euro costava quella apparecchiatura. Adesso ha calato, 170 mi pare che costa. Ma si trova sempre, dico, la versione europea. Non lo so. No. Io quello lì lo uso poco. Se ci mettiamo d'accordo magari lo posso dare io. È nuovo, già lo sai che lo uso pochissimo. C'ha tutto, microfono originale, tutto quanto. Però per una fesseria non glielo do, perché io l'ho pagato bene, quindi. Se vai a rivederlo magari su internet, l'X, non mi ricordo com'era la sigla. E comunque fa un bel colori, può andare in diverse, può sintonizzarsi in diversi paesi, insomma è abbastanza completo come apparecchio, c'ha lo scanner, c'ha un sacco di roba. A me piaceva, poi vabbè, se dovessi comprare tutto quello che mi piace, non fa. Ho paura che non lo trovi nemmeno più. Ah, è vero che aveva chiuso il negozio dove l'avevate comprato voi, era comparso con un nome che non ricordo online, poi però mi pare chiuso, non ha avuto successo, non ha preso piede. Cos'era? Tecnocomunicazione? No, un altro era, tu gli telefonavi, facevi gli ordini via telefono. Però poi adesso che ha chiuso non troverò nemmeno più il sito. Ah, nuova elettronica voleva dire, una cosa del genere, in inglese. Che nuova elettronica era vecchio, una vecchia. Adesso proprio non me lo ricordo. Sì, adesso riescono a stare a galla i soliti, no? FLQ, poi quello di Lucca, mi pare che Cerit Elettronica abbia chiuso, quello di Catania, mi pare che il sito è sparito. Oppure, come tanti, mi pare anche Tecnocomunicazioni abbia rinunciato a pagare i soldi del sito e a mettersi tipo su eBay, su Amazon, vende tramite lì. Sì, ma Tecnocomunicazioni è andato male quando si sono separati i coniugi, perché prima c'avevano laboratorio, facevano film, tutti gli apparati radioamatoriali, andavano alle fiere, infatti quando andavano alle fiere mi informavano sempre, oggi ho ritirato, ti interessa? Mi mandavano anche le fotografie dell'apparecchio che avevano, eccetera eccetera. No, erano molto comunicativi col cliente, capito? E niente, poi si sono separati e non hanno più avuto il laboratorio, l'hanno trasferito, non era più nel negozio, insomma è successo un patatrac, dai, poi non è stata più la solita cosa, addirittura quando ordinavi il microfono ti diceva perché apparato ti serve? Sì, io devo metterlo su Midland, alla 48 Plus, va bene, allora ti faccio l'attacco per il Midland e me lo mandava già con l'attacco pro. Visto, faceva anche quei servizi là. Alcuni venditori non te ne fanno, dicono noi non possiamo, lo dobbiamo vendere integro. Allora, Cobra 29 LX EU. Allora, in Polonia è sparito, o in Germania, dice, fuori produzione. Non so mica se si trova, vabbè. Vabbè, comunque l'ho provato col microfono che uso nel Galaxy, è una bomba, e va bene. Eia, allora vediamo, Radio World UK, e alla fine uno lo deve ordinare tipo dall'Inghilterra, se lo trova pure, vediamo, non dice, out of stock, fuori dal, li ha terminati anche questi. Non si trovano più. Un po'... mi pare già che non si trovi in Italia, una seccatura non è garanzia se lo compri a fuori, cioè garanzia ufficiale, dico, tutto UK mi compare, UK, UK, insomma se lo trovi per sbaglio devi ordinare dall'Inghilterra o da fuori, dall'Europa, dall'America non conviene, perché poi ancora la dogana non l'hanno reintrodotta, no? Per via dell'uscita dell'Inghilterra, mi pare c'è un anno di franchigia ancora, quindi se ordini dall'Inghilterra non dovrebbero esserci dogane, poi nel 2000 e insomma un anno quando è uscita? Poche settimane fa, pochi mesi, un mese fa sarà. Comunque vabbè, non è garanzia, se si rompe non c'hai fornitore ufficiale, una palla. Io inutile dirti che l'avrei consigliato un 3009 omologato, se sì, ma nemmeno quelli trovi più, mi pare che sul catalogo Proxel non c'è più, non lo importa più. Quelli ce l'ha fatti invece, ce l'abbiamo solo io e Antonello Diosi, perché l'avevo ordinato io e l'avevamo comprato insieme, solo noi due ce l'abbiamo in questa zona. Mi ricordo, c'era stato anche un qui pro quo, no? Mi avevi telefonato, io ho detto, ma quale apparato già? Dice, ma allora non lo vuoi più, cioè ti eri confuso con me, cioè già hai capito, no? Era Antonello, lo voleva, e ti eri confuso con me. Io, ma quale apparato? Dice, quello che abbiamo deciso di ordinare. Io, già, o c'ho l'Alzheimer io, non lo so. Vero, me lo ricordo, mi ero confuso, mi ricordavo che tu che me l'avevi chiesto, vabbè. Comunque Antonello ci ha messo l'MB+5 e andava benissimo con l'MB+5, ma va ancora meglio con Sadetta, poppa forte. Comunque Antonello di Orsi non lo sento da un anno, può essere, mesi proprio, non l'ho più sentito da nessuna parte. E Antonello ci ascolterà sempre, però sicuramente sta lavorando, mi auguro almeno per lui che stia lavorando, e quindi avrà poco tempo magari di entrare, ma sicuramente ci ascolta, perché lui me l'ha detto molte volte, vi ascolto ma non entro perché magari sto facendo altre cose, ma vi ascolto sempre, la stazione ce l'ha sempre. Come faccio io quando sono quei periodi che non entro, che magari con il computer o tanto in casa sempre qualcosa da fare? Aspetta un po'. Allora, Superstar 3009, 271 canali, no, questo non è omologato, non è omologhe, eppure nella foto hanno messo proprio quello omologato portato dalla Proxel. Vediamo cosa dice. No. Oppure quello omologato me lo mettono già espanso, perché tanto lo espandono tutti, quasi tutti. Dettagli del prodotto, vediamo. Non me lo dà. Kappa. Comunque quello lì è un Cobra, quello che ho preso io. È un apparato serio, non è un apparato qua. E magari il microfono, che non esce bene il microfono, ma cambiando il microfono cambia tutto, capito? Cambiando il microfono cambia tutto. Ma perché, come usciva? Io non ricordo, forse un po' toni bassi, tutto lì. Dicevano che usciva male di radio, di cose. Poi un giorno non ho detto niente, ho attaccato il Sadelta, cazzo, bella radio, cazzo. E detto, sapete che cos'è questo? Questo è il Cobra, con un altro microfono, e tutta una questione di microfono. Io ci avevo adattato il coso, il Proxel, ma a quanto pare il Proxel ha una capsula che ti fa la voce troppo cupa. Sostituendo la capsula del Proxel magari va anche bene, capito? Vai, e così ti l'hai fatti. SSB ci vuole, che cazzo, non ce ne facciamo niente di questi apparecchietti così. Io sono così presente un microfono, attacca al vino, che si apparà. Sicuramente l'FM esce meglio, come quello in natalino. Qua è più cupo, è barattolato, mistero. In FM, cioè il microfono può essere vile quanto vuoi, però già che esca in FM è meglio, è una cosa positiva, è che noi abbiamo la cultura della M. Non so perché, forse per uscire più forte, per fare gli sboroni, capito? Bravo. Già mi piace. La pasta ricotta facevo anche io. Poi ci mettevo un po' di pepe e via. E tira campà. Comunque già, bisogna stare attenti su internet a cosa compri, perché ci sono Superstar 3009, no? Poi vai a leggere in fondo alla pagina, in piccolo, e dicono che sono residui di magazzino, e dalle foto si vede che sono i 3009 di 30 anni fa, e dice sono fondi di magazzino, testati funzionanti, comunque dice se lo acquistate state accettando la formula, come dicono gli americani, as is, cioè così com'è, cioè se lo compri poi ti arrangi, se non funziona loro te lo dicono, è testato, è funzionante, te arrangi. No, ci vuole quella versione omologata, marchiata CE, come questa. Quello che c'hai tu, cromato, quello lì è marcato CE. Sì, questi sono di nuova generazione, però nota, sì, tre anni fa li avevo presi, forse qualcosina in più, no? Marcato CE, importato da Proxel, infatti c'hai qua un adesivo Proxel triangolare, importato e distribuito da Proxel, versione omologata, quindi ALC, trimmer della M è chiuso, 4 watt massima AM, 12 NSSB, di picco, che poi non li dà nemmeno. Naturalmente è inutile dirti che col solito cappuccetto, no? Lo sposti dal pin 1 e 2, lo metti dal pin 2 e 3 e diventa 240 canali. Potenza, te lo regoli come vuoi, e a MOSFET mi pare ne abbia due. Quindi anche se li metti, non dico 10, ma 7 watt, 8 ancora esce bene. In AM naturalmente. E poi che altro? Boh. non so cos'altro dire. Se è migliorabile in versione export, chi lo vuole in versione export, ma ha il suo rischio e pericolo. Quanto te ne sono rimasti adesso di questi apparati? Ma di 3009? Uno. Non lo so, non ne ho tre. Allora, uno l'avevo dato al Profeta, gli OPEX 2000 col frequenzimetro a cifre verdi. Hai ragione, c'ho quello col display rosso, che è uguale a questo. Sì, sì, sì, sempre portato dal Prox. Sì, è vero, due. Funzionate perfettamente. Sì, con i suoi piccoli imperfezioni, cioè questi andrebbero messi comunque allineati come Dio comanda da uno bravo. E comunque questi, ricordati, come scaldano, in frequenza tendono, soprattutto in SSB, tenacordi, a scivolare un po'. Poi come raggiunge la temperatura di esercizio si assesta. Infatti a freddo mi ricordo che in AM va bene, non te ne accorgi, in FM nemmeno, in banda laterale te ne accorgi. Buonasera a tutti. Anche il Magnum è così. Avanti, il Profeta, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ho acceso la radio poco fa, mi sono deciso a entrare, dai. Buonasera Gianni, buonasera Marco. Marco, la radio è qua, quando vuoi, già usai, basta fare un fischio. No, quella è tua, è di tua proprietà, la puoi vendere, la puoi lanciare dalla finestra, ci mancherebbe, quella è tua, è un discorso che abbiamo già fatto. Peccato, se si poteva migliorare l'FM era cosa buona, l'FM. Poi quello in particolare aveva quel problemino che è poco allineato, bisognava spostare il clarifier tutto a sinistra in FM per ricevere meglio. Cioè questi quando escono di fabbrica sono usciti con tarature molto ma molto sommarie. Comunque già, e cosa ti volevo dire? Cosa Marco? Ti volevo dire, questi nonostante fossero usciti tipo 5 anni fa importati dalla Proxel, sono completamente componenti classici, cioè belle resistenze grandi, bei tutto grande, bei trimeroni grandi, anche un cieco lo può girare. Invece tutti gli altri apparecchi contemporanei, e questo era un SMD, questo ancora ha tenuto i componenti classici, cosa eccezionale, però non lo trovi più. Guarda, forse lo trovi dalla Spagna, però anche lì non hai garanzia italiana. Poi adesso gli americani stanno sfondando loro, stanno con gli apparati. Adesso come sempre. Vai siti americani e trovi certi apparati bellissimi. Eia, solo che anch'io, guarda, a me piaceva da matti il Galaxy DX tipo 959, ma già costava di suo una follia, no? Più la spedizione, più la dogana, un'altra follia, cioè alla fine mi sarebbe costato 500 più euro, ma in anni, sempre veicolare, ti sto dicendo, a me il base non sono dei barasoni, sono difficilmente imboscabili, diciamola chiaramente, no? Va bene, riprendi l'Ubrofè. Vabbè, sto per dire una cosa, ma allora, mentre parlo, praticamente il wattmet mi misura la potenza variabile e adesso non riesco a capire se sono in picchi positivi o negativi. Sto cercando di capire. Allora, prendi portante muta senza parlare, prova. Prova a premere portante muta senza parlare già per 10 secondi e guarda se si muove. Abbiamo parlato in 4, in 5, dai. Che a me mi piacerebbe un apparato che ho visto da un amico, capito? Però se metto quello me ne devo andare io perché non ci sta qua. Ehi, no, dicevo al Profeta di premere portante muta e osservare lo smitter. Ehi, allora, adesso faccio un passaggio. E qua all'incirca sono 8 watt misurati, dai. Ma con la portante muta ti oscilla lo smitter? No, negativo, con la portante muta è fisso. No, è a posto, oscilla, si muove praticamente avanti e indietro, ma di poco. Però portante muta è fisso, dai. Sì, sì, sono i picchi anche qua, vediamo, certo, questo non è che salga molto. Ola, ola. Eccoli qua i picchi. Buonasera a tutti, come la radio, grazie. Ah, Tonino Kawasaki, sembra ritornata come il primo giorno che è rientrato, senza quel soffio, prova a lungo. Ecco, non mi hai chiesto male, così molto sta scelta. Ma io ho preso il 112 a parte che andiamo a Bercina a Cosina. E che cosa non ho capito? Ho detto prendi 112 a parte che andiamo a bere una cosa. Tu sei ancora arretrato, c'è una di che non ve la giubisce la macchina. Finalmente il 180 era fatta di Maria, avevo fatto. Chi sa cammina per viro, altro che 70 capito. 44 marce ci aveva, ma era un burro. L'unica cosa che aveva quella macchina che le stava scendendo nel cielo. No, comunque, capate scherzi, era preparata quella macchina, l'ho presa, cavavamo bene. Alle 5 marce facevo parla capitica, andava proprio d'ora, ha giovato lo vento. Sì, quella camminava di più, le 4 marce camminavano di più, di più. Oia, oia. Non ti sei mai seduto Marco con tu il Kawasaki in macchina, ti faceva rizzare bene? No, mai. Io conoscevo un ragazzo della mia età che già me l'ha fatta rizzare i peli, ma non è che mi spaventassi più di tanto. Torino, no, già la radio è già buona, è buona, magari non limpida e squillante come quella di Gianni, no, il problema era quel giorno che avevi quell'eco e un soffio forte di fondo, una specie di... Oggi non c'è, oggi va abbastanza bene, relativamente bene. Ok, no, sto usando un mic Intech, proprio di quelli palmari di Madrid, e niente, avevo il mic che diciamo molto al minimo quando usavo questo microfono, poi quando ho messo l'amplificato a tavolo l'ho messo a manetta e prendevo col fischio, capito? Siccome questo baracchino non si è rigraffato, quindi automaticamente non è che si legge bene, devo punirmi la lettera a contatto io, mano in mano non vedi cosa mi è scritto, e quindi ma che non è che si vede molto bene, e tutto il resto. Ma comunque, è andata bene, l'importante è che mi sentite bene, poi presto. E tu Gianni, a proposito, ancora così sì? Io ancora così, sono appena rientrato a casa dall'ospedale. Sono operato fresco fresco, sto cominciando a camminare con le stampelle piano piano, qualche volta le metto da parte e cammino senza, piano piano mi sto riabituando, avevo la gamba di legno, avevo la gamba a 2 sacchi da palla, adesso si sta rammollendo un po', capito? Ma è fresco fresco, ci sono dall'ospedale, ma non è sentito da poco cosa è successo fuori, che uno era a coronavirus, contagiato tutto il reparto. Ma dove? Fuori, non ho capito che paese o città era. Ha contagiato tutto il reparto, sono presi in quarantena. Ah, allucinante, quelli sono contagi brutti. Perché si cominciano tutti i pidari, si è buttito, perché uno contagia l'altro, magari c'è l'infermiere va a portare le lastre, a prendere le lastre, cosa è contagia chi si fa vedere le lastre, e c'è un giro allucinante. Allora, avanti profeta che c'è poi parcheggio. Ciao Tonino, buonasera, ben ascoltato. Vabbè, io comunque il tuo nick l'ho conosciuto molti anni fa, è un piacere risentirti, vabbè, io poi ho mollato tutto, comunque ben sentito, ben ascoltato. Mi dai un controllino di segnale, 1-2-3-1-2-3. Qua arrivi dove 25, poi vedi tu. Caparoce, se puoi dirmelo, che zona ti trovi? Io sono molto fuori Sassari, io sono dopo San Camillo. KK, allora va bene, grazie mille, anche tu arrivi 9 più forte e chiaro, la voce, la radio è un po' barattolosa però è comprensibile, ok? E non si può pretendere da un mic Intech di quelli busurrini da 13, quindi è anche troppo. KK, va bene così. Niente, ok, volevo dire un'altra cosa a Marco, però mi sono dimenticato. Avanti Marco. Oh Gianni, doppio run, ci sei ancora? Sì, sono qua. Allora, riguardo quel 3009 col display canali rosso, no? Lì purtroppo quando c'è pericolo fulmine, io negli anni staccavo l'antenna e avevo il cavo 213, no, molto rigido. A furia di attaccare e staccare l'antenna, lì ha fatto leva e ha rovinato, che era saldato all'interno del PL, dentro l'apparato, il filtrino anti-TVI che mettono. Proprio era tutto risaldato, l'ho dovuto togliere e bypassare, mettere il normale filo come hanno gli apparecchi non omologati, però non lo posso usare, non sia che disturbi, quindi l'ho lasciato, l'ho accantonato. Naturalmente, visto che non avevo il filtrino, trimmer AM tutto aperto, qualche canale in più, qualche watt in più, visto che c'ero, però in casa tutto omologato. Ok, l'hai truccato il tutto, già che ci li hai messo tutto fondotinta e via dicendo. Solia, te ne immagini questo Marco Condor, era l'amore di Paoletto Falcone, te lo ricordo? Io quando facevo il gioco della calzetta, te lo ricordi? Io sono attualmente l'amore di Paoletto Falcone. Il gioco della calzetta, te lo ricordi? Una volta era entrato con l'ominativo orgasmo e lui mi cercava tutti i canali, pensava che fossi nuovo, gli ho detto che avevo 17 anni. Oh, in tutti i canali avete sentito orgasmo? Comunque se lo volete vedere andate al Taranti che lo vedete, ve l'abbracciate. Bello stagionatello, hai visto? Ha ingrassato pure lì, continuo sulla vecchia. Aspettami adesso, quanti anni ci avrà tu lì Falcone? Falcone buone buone avrà un 65 anni. Sei grande, grande. Ma non ricordo che una volta sono andato a prenderlo per conoscere, io pensavo fosse una persona con problemi, nel senso che era una socievole, qualcosa del genere, invece poi mi sono accorto che era macco e praticamente è venuto tutto ben vestito, maglietta Lacoste e abbassava la testa, tu sei Falcone, lui si è bussato in macchina e allora non l'ha portato, se c'era quel vascone dove lavavano tutte le macchine, c'era presente, che adesso non c'è più, e mi mette a lavare la macchina lì, a un certo punto mi posso alzare lo stereo e io gli ho detto alzalo, tanto no che non disturba nessuno. A un certo punto mi stavo inchinando cazzo, per pulire la macchina, ci ha fatto quello, ci ha attaccato il cobretto, ha detto brutto buzzeroso che non sei altro, a me non dire a nessuno che sei venuto con me, no, doppio lui, non dico niente, siccome stavo l'accompagno, come stavo tornando a casa, ho detto lo sapete con chi ero? Con doppio e tutti i canti, ah disgraziato, cosa l'hai fatta Falcone, e tutti i canti sono di gol. Era una nuova Sardegna, non si chiama più sistema. Però dire la verità, poco a poco ce l'ha cavezzato già. È stata la storia della frequenza, è stata la storia della frequenza Falcone. Ma poi quando raccontava di Serra, perché ci mirava. Però è stato tutti qua. Dove l'hanno ingannato? E lui ha messo la testa nel comodo. Comodo. Chissà se è vero questa storia, però si sia avvintava e stava. Mi hai fatto dai. Poi io ci ho fatto tanto affidamento di certe cose che diceva, era fuori di testa. Io comunque ci ho bisticciato con la zia, la cazzo è. Marita moglie e lui abita sotto sempre, non mi ricordo. La zia vive lui? No, mi pare la sorella, che è la sorella, sulla strada di Sorso abita. È la sorella, è in Castelviccia. Ma io sapevo che era la sorella, vabbè, comunque ci è misticciato perché? Allora, sono andato su Altani, che ho fatto un giro, ho detto, ma quasi quasi ho visto quella cazzo di slot, dov'è? Ci butto 5 euro un po'. E sono andato lì e c'era la zia giocando, il marito non ha passeggiato. Ci ha sbattuto a 15-20 euro, non ho vinto niente, si sposta di macchinetta e ci ha messo un cartello. Io non ho tolto la porta, prima di giocare guardavo la danza come una... Ha messo quest'altra macchinetta, ha vinto euro, non ho vinto niente, ha messo l'altro cartello e si è trovato la macchinetta. Ha detto, ma che manca? Ho tolto il cartello e mi sono messo a giocare, si è avvicinata lì. E là c'ero io, no, scusi, lì ha giocato qua, l'ha mollata, ha giocato lì, l'ha mollata, andato... Ma che cazzo si, ha padronato il discorso, delle slot, vai da fa culo, vai. Cazzo, il maestro ha avvicinato, tu cosa cazzo vuoi? Molto subito per me, buco la testa. a Lucina e ci hanno visto per gioco, dice che sta sempre giocando lì. Sì, è sempre là, da ore e ore, capito? Ah, poi vi l'abbiamo letto, aiutatemi, la carità. Tu ci diamo le maniche, come al solito. Vabbè dai, Marco, riprendi. E lo volevamo ricomprare la stazione, non ha voluto, chissà, non so se sia la zia, la sorella o che, non ha voluto. Chi non vuole ricomprare o comprare la stazione? No, meglio di no, cazzo, no guai. Se non metti che dovrà Piero Drago, quando lo faccio a cazzo. Scusate gli amici, io mi ricordo un particolare, che è entrata la mamma di Falcone, che ha detto disgraziati, lasciato a prendere mio figlio malato, quello quell'altro, e Piero Drago ha detto, signora, ti ho detto, se non mi siete buttate le facce scolazioni. E me la ricordo la madre, me l'accento romanesco, me lo ricordo come se fosse oggi. Avanti di nuovo, riprendi Marco. Neia, ora che ci sono, c'è un sito con le registrazioni mi, della schiatteria. Mi? Non si è sentito nulla Marco. E come mai? Non si sentiva. Dammi l'indirizzo Marco. Aspetta. Questo era Piero Drago. Cisso, che si diva la che infarta quando si incazzava, vai mangiati un brudino di brudino tutto gatto caro, vai mangiati un brudino di marmo che sei maleducato, non ci devi stare tu in questa frequenza, io vattene via e mangiati un brudino di marmo e quando si incazzava si sgolava, lui trava la mamma. Poveraccio. Una volta quel baracchino che ci avevo portato, né Marco, quello che stavamo parlando poco fa, voleva quello lì e mi dava un baracchino suo, non so quanti canali ci aveva, io gli sono andato per vederlo, no? Il padre mi ha chiamato, era qui in cataletto, me lo ricordo ancora, mi ha detto ascolti, Paoletto non c'ha bisogno di fare scambi e cose, io le lo potrei anche comprare, ma se gli compro un portatile, quello attraversa, parlando al baracchino, ci fate buttare sotto a qualche macchina. Ci scusi, guardi, non sa che non è giusto, che è malato e l'ha fatto venire qua per niente, perché io non accetto questi scambi, a parte che lui bava tutto col microfono, sputta, fa, mamma mia. Ti avrebbe preso una scarlattina già. Se lo sputta chi era che su cazzo il microfono? Beh, lo sai che la casa l'ha comprata la sorella di un amico mio, no? Mio, no? Quella casa, e c'aveva tutto il muro spruzzato. Marco, che fine hai fatto? Dimmi Tony, ero distratto. Tu che stavi pensando a Paoletto di verità. Marco, dammi l'indirizzo. Allora, Radio Nuraghe. altervista.org. Ripeto, radionuraghe.altervista.org. Bisogna cliccare sull'icona del registratore a bobine. In basso ci sono delle come cartelline numerate. Ogni cartellina era una cassetta. Ok, trovato. Ci deve essere lui che gli hanno fatto il gavettone di schiuma da barba a quella partita a Torino. C'è lui, cazzo, che gli hanno fatto il gavettone, non so chi gliel'ha fatto. No, quello io non l'avevo visto. Sì, nel sito praticamente tu come apri il sito c'è lui, tutto pieno di schiuma addosso, con la schiuma da barba. Però di la verità non l'abbiamo trattato male, abbiamo cercato di addrizzarlo se poteva guarire. Sì, ogni addrizzata di cura e du. E invece lui addrizzava lo stesso, anche se... Cazzo siete Morelli, che... Morelli. Uno di si ne fa zia la dizia. Comunque già, che vuol dire, è Paoletto comunque grande, c'ha la sua età, quella quell'altro. Mica gli anni fa sono anche per noi, no? Siamo mica giovani anche noi, no? Io ho 60 anni, Tony. Io ho 60 anni. Tu forse c'hai qualche anno in più. Un bel po' in più. Io ho 66, l'altro anno vado in pensione. No, io ho 60 anni, compiuti a ottobre. Quindi. Ma è interessante se tu sei giovane, tu. Allora, Google ha fatto scritto a me, chiunque mi ha conosciuto, anche sul campo lavorativo, eccetera, io lavoro in tutte le scuole superiori, non mi danno mai l'età che ho, tutti mi danno 54 anni, chi 50, chi 56, e tu io ti insegno. Ma perché adesso, io non so se l'hai notato prima, anche le donne a 50 anni barriano a bici, adesso sembrano ragazzine, 55, 57 anni ancora sembrano ragazzine, e diciamo che sta allungando la vita. Beh, comunque, la realtà che abbiamo, grazie a Dio, ci teniamo abbastanza bene. Un po' di acciacchi, vabbè, questa è la colpa di Enzo Fornero, che ha messo questo cazzo di coso di Paletti, si andrà in pensione, 43 anni di lavorativi, la massa di recenda è 67 anni. E adesso stanno facendo di tutto, prendono il pullman dell'Inps, fanno le gite come facevano da Fantuzzi, quando c'era il film di Fantuzzi, organizzavano le gite Inps, poi l'autista diceva chi è che deve scendere a fare la pipì, tutti quanti noi, tutti quanti ricchi scendevano, passavano gli autotreni, spiccicati, attaccati all'autotreno, tutti i gatti li mangiavano pure. Sì, non li pagavano più la pensione. Allora, povaraggi, cazzo, andavano sotto le gallerie a fare la pipì, passavano gli autotreni e mi sciavano. La Coccollo. Però vedi Marco, ha tenuto sempre l'amore per Falcone, si era anche registrato per sentirlo, hai visto tu? È perché è un suo idolo. Ah, della CB di Sassari, Sassari Falcone. Io mi dirò beh è andata persa anche, lo sai, non sono solo io che ho registrato, mi dirò beh è andata persa, per esempio tutti i pezzi con Tonino che lo faceva schiattare, andati persi, invece quelli con Piero, oi, mamma mia, la morte, la, come che si dice là, la nemesi di Paoletto era Piero Drago. Comunque c'è poca gente a fare scherzi, comunque era 27, prima c'era molto molto di più e c'era più divertimento, mi ricordo dal 74 era tutta un'altra cosa. Poi prima si facevano le lotterie, te lo ricordi Tony, avevo vinto lineare io quando hai fatto la lotteria tu, lineare da 30 watt. Ehi, ha fatto la bella lotteria e i soldi insomma che avevo incassato li ho spesi tutti in oggetti, diciamo per la CB per la 27. Me ne ricordo, io avevo vinto lineare a 30 watt e con quel lineare dal parcheggio delle querce avevo fatto un DX con l'Inghilterra. Era diversa comunque la 27, c'era. Poi ci faceva, mi ricordo ancora quando c'era Tore Chopin, si faceva il Portobello con Piero Drago la sera. Chi si scambiava, che si vendeva, che si comprava, un casino era comunque. C'era molta più gente, era diverso, dai. Comprovendo scambio. Sì. Che attaccando entravo mi telefonava Tore Chopin, ah io già abbassa tutto il gatto, mi sei crimine in tutti i canali. Non potevo attaccare il mio giambo. Te lo ricordi l'antenna che me l'ha piazzata a Sacro Cuore? Ma sinceramente sono passati tanti anni già, non me lo ricordo, guarda. E me l'hai piazzata tu l'antenna, la Grand Prix, sopra il tetto, me l'avevi piazzata tu. La Grand Prix con i radiali 2,75, cazzo, quella lì pompava forte, mi arrivavo a Santiago 9 ad Alghero, 9,95. Pensa un po' che non me lo ricordavo più, guarda un po', il tempo che è passato e tutte le cose nuove che ti vengono al cervello immagazzinate e poi vai, devi scavare le cassettine, un casino, troppi anni sono passati già. Ma io c'ho una mente, se mi dici per dire vai prendi quella cosa, vado a prendere, a volte mi dimentico cosa devo prendere, ma le cose passate me le ricordo come se fosse oggi, anche di quando ero bambino, ma te ne immagini? L'Alzheimer, vai. Sì, sto facendo memoria comunque, già mi ricordo una cosa del genere, dai. Vabbè, profeta, ci sei ancora? Sì, ero in ascolto, stavo ascoltando gli aneddoti. Ho provato a cliccare un audio registrato sotto al consiglio di Marco, vabbè ho trovato il sito, poi Marco mi dirà, visto che conosce il materiale meglio di me, quali sono le parti più sicure da ascoltare? Io ti consiglio di metterti le cuffie per ascoltare se si sente in casa, perché diciamo di parolacce. Già, sono tutti spezzoni più o meno lunghi, fate a ricordare, sono tanti. Hanno eliminato molto, hanno eliminato, più che altro hanno eliminato gli interlocutori quasi sempre. Tranne qualche file che dove c'è l'interlocutore che lo fa schiattare. Dice, ma vabbè, non lo ripeto qua. È tutto linguaggio spinto, comunque. Immagino, ho visto appartenite sono varie cartelline con tutti i titoli, insomma, telefonata qui, telefonata qua, telefonata pre-incassatura, posto in casa, insomma. Dai, con calma magari mi inizio a sentirmi qualcosa. Niente, dai, piano piano vedo. Sì, ma mi ricordo a distanza di anni qualche cosa me la ricordavo, cioè proprio perché lo sentivo sulla 27, poi vabbè, la roba è entrata in dimenticatoio, non sono a livello di Gianni, dai, comunque qualcosa già me la ricordo, dai. Donia, quando si facevano le gare di notte te lo ricordi? Abadisi, Urbia, di tutti i colori. C'erano in gara, c'erano sempre Walter, Vittorio Giove, Marco, tutti quanti gareggiando per vedere chi arrivava più forte, ma i competitivi erano sempre Vittorio con Walter. No, c'era un particolare, vedi, tu non lo ricordi. In competizione c'era con Silvestro di Porto Torres, io e Claudio. Io avevo 1000 watt sotto, ma che grande stavo pompando. Ma sentiva infatti Silvestro un fischio e non passava nessuno delle due. L'hai saputo di Silvestro che è morto, sì? Sì, l'ho saputo, me l'ha detto Stefano. Paga, poveracci. Siamo andati a trovarlo all'ospedale prima di Natale. Stava parlando di questa tipa, ha detto, cazzo, va via, un capo di capelli, Maria, un idolo di una gurraccia. Cazzo, si è fatto ridere a tutti i canti. Era per ridere, defendimi. Tranquillo, di colpo. Se n'è andato. Si è rotta la bile e si è rimasto. Poveraccio. Sì, ho parlato pure con Gavino Carciofo di Porto Torres, però non so che filo l'ho fatto, ma io poi ho mollato il baracchino, poi avevo tutto venduto, non ho più niente. Strano, mio figlio non c'è più niente, eppure gli avevo venduto a lui. Vabbè, abitava fuori, poi è tornato di nuovo a casa sua, è morto sia mio compare che anche a mio comare, la madre sua, che stava a dolce, vicino a Gio Maria Figaro, Emanuele. Vediamo che giorno lo chiamo se c'è il baracchino e se vuole entrare, perché vedo che c'è poche persone in frequenza, non è più come una volta già. Ma una volta aveva volume di casino, Vittorio, non so se ti rammenti. Io a volte giravo un canale che ve la riportate a destra e a manca, quando ve la Falcone specialmente c'era un casino che non si poteva entrare. Dovevi avere potenza per farti sentire, se no era budibile a buri luci. Piero Drago, abiti via Cedrino, anche io non mi sentia via Cedrino. Ben ricordi. Io pensavo che tu non avessi più nulla, Vittorini. Ma che Marco 131 dovrebbe avere ancora gli apparecchi. Ma io sinceramente non c'avevo niente, poi è stato Stefano Piccimazzurro che mi ha dato un faccio 2030, un'antenna, quello che l'ho messo da parte, sì, ho fatto qualche modulazione una domenica mattina con la base magnetica sulla macchina, e poi tutto messo da parte, poi mi è capitata un'occasione, ho comprato un baracchino, poi piano piano ho comprato l'antenna, ma si è rimasta impacchettata l'antenna mesi, penso a poi non me ne fatica nulla. Poi mi ha detto c'è poca gente, non c'è quasi nessuno. Ora mi chiedo bene, adesso proviamo a piazzarmi questa antenna, vediamo come va. E quindi sono andato avanti così e poi ho ripreso piano piano, dai. Carvero. E lui? Già, stasera non si esce. No. Come mai? Coronavirus? No, non è quello, non c'è, qua non ce n'è, non credo. Ciao Tony, non ce n'è qua già, che purtroppo nei locali non puoi stare più di 5 persone, poi devi stare a distanza, capito? Se tu vai in un ristorante quindi devono esserci più persone o la sabbia. No, è una precauzione che stanno tenendo, però a Nuoro già ci sono. sono dei casi, capito? Anche a Sassari qualche cosa c'è stata, anche se lo stanno tenendo un po' segreto. Oia, quello per dire di Porto Torres l'hanno portato a Sassari, e quindi a Sassari, all'ospedale di Sassari. E quella era però influenza, è già. Ah, influenza normale era? Sì, sì, l'hanno constatato, non era virus. Manco male, sono allestito anche la tenda fuori del pronto soccorso, che fanno il pre-triage, no? Praticamente fanno da filtro, prima di entrare al pronto soccorso ti controllano. Se hai quella roba lì, ti mettono in quarantena. Ma te ne mangi già, ti fermi una fermata di autobus che c'è tanta gente aspettando, vai vicino e fai, non vedi i fuggenti? Ah no, davvero, guarda fa la buffonatura, se non ti cudini come ti hanno fatto anche sui cinesi, poveracci. Sì, poi questi tempi amici mettono poco a... non puoi fare manco scherzi che ti denunciano per procurato allarme. Vado a farmi un panino. Chi se fa a me? Un panino a carne macinata. Tony, ma mi senti? Certo che ti sento. Ah, se sai di segnare, fai. Prova. Sto per 26. Tu sei quasi 9.30, guarda un po', e io sono fuori Sassari. Ehi, vabbè, sei quasi vicino al più del 2.30, Io ho questi anni con tuo nome, trovo la mia misera stazione. Volete parlare in due, vai già. Ho detto, quando ti arrivo io e Torino, la mia misera stazione? Quasi 9.30. Ma allora va bene via d'aria, magari... perché dove abito io adesso, linea d'aria per San Camillo è giusta, dai. Io sono anche in alto qua, io vedo Sassari, ripeto, poi ho messo 6 metri di palo, fate il conto. Ah, Tony. Io ho come antenna un radiale di mazzo qua, messo in un terrazzo, ti ho detto tutto. Ma che antenna hai messo, Tony? Ma veramente, guarda, non lo so, ho preso la 50 vedonda lì alla CBC e niente, c'è tre radiali, lo tiro alto quasi 6,50 metri. Tipo un amato fa rimane. Da Energy. E poi c'ha questo che tutta una carica di rame dentro e c'è questo trasparente che si vede, basta, e sotto c'è l'attacco della pelle. Ah, l'hai comprata da poco quella lì? L'anno scorso l'ho comprata. Se non l'ho mai piazzata, si è miscatolata e buttata da parte. Quindi non era vero che stavi uscendo col dipolo, brutto ballista. Sì, prima quando fate cosa col dipolo. Sì. Oh, capace che anche col dipolo esci bene, perché si è puntato verso casa, puoi arrivare anche 9.30 col dipolo. Non è che io sto uscendo col dipolo per dire adesso. E io sto uscendo con la tenina di macchina. Io so col dipolo, però è un dipolo verticale, non è orizzontale, è verticale. Si chiama Game Master, l'antenna, e praticamente è un'antenna fatta di tubi, non è vetroresina, è un materiale plastico però. E all'interno c'è un filo, basta. Ma io il dipolo te lo posso fare con due cavi elettrici da 0,25. Basta misurare 2,5, ci vuole molto, poi cavo l'RC58, l'altra maglia lo salto da una parte, il polo caldo alla sinistra, destra a sinistra, la carata, metti in piedi, attacchi, e poi con rotolo tra controlli, sia posizionale, si ricorda di tagliare sempre un centimetro da parte, un centimetro da parte, quello che tagli da una parte devi tagliare anche all'altra, fino a portare stazionale pure uno, è facilissimo fare l'antenna, quello è un quarto d'onda, poi mezz'onda devi raddoppiare, sempre 5,50. Sì, già lo so, io me lo ricordo che li facevamo. Prima quando c'erano pochi soldi eravamo ragazzini, modulevamo quei puli per non spendere i soldi. Io so che Natalino usa il dipolo perché l'antenna mi sa che non so proprietare dov'è. No, Natalino c'ha l'antenna adesso. Ci ha piazzato l'antenna Ottoni. Ma occhio perché là se disturbai i TV sono cavoli suoi, perché io ho sentito già qualche lamentina con la zona. E lui è in regola, lui c'ha tutto, concessione, apparati omologati, non ha niente da temere. Ci devono cambiare l'antenna a chi disturba, perché vuol dire che sono le antenne vecchie. Già è successo nel mio palazzo, che stavano dicendo tutti che era perché c'era il baracchino, mi hanno mandato un tecnico a controllare, quando è salito su c'era l'antenna nel baradupito, ho detto boh, faccio il verbale di cambiare l'antenna perché lì non c'è nessun problema. Beh, facciamo girare, ci vediamo che ti così qualche portante, qualche non ne mettono più portanti qua, no? Non ce n'è più di quella gente. Avanti a chi tocca. Sì, praticamente Torino deve aver preso la stessa antenna che ho io e che ha Natalino, la Energy, tre radiali, lunghi 1,30, è quella che ha Eugenio, lo stesso. Ma la GBC l'ha presa Natalino? Torino. Ma la GBC l'ha presa con l'antenna? Sì, non va a tenere, l'ho pagata. E allora, la stessa che c'ha sia Natalino, Marco Cotto e Eugenio di Porto Torres. Comunque va bene come antenna. Sì, va bene, va benissimo, solo che il materiale più fino della Mantova, va. E lo so, io ho avuto anche la Firenze 2 che era una signora antenna, poi ho avuto anche la Mantova. E adesso mi sono preso, io stavo cercando la Mantova, la Firenze 2 non le fanno più. Ho trovato questa, ho preso questa. Io l'ho trovata su internet, sia la Mantova 1 che la Mantova 5, la Mantova 2, tutti e tre. Costavano 100 qualche cosa, 110, una cosa del genere. C'erano, io se li cerchi bene, io l'ho trovata per caso, ho detto lì, cercando, sono riuscito a trovarla. Ed era anche in Italia. Già, io ho cercato su internet e non li ho trovato. Tanto male poi sono andato alla GBC e ho mentre sono a 50 vedonda, tutto qua, e c'ho questa qua, e dammi quello lì, capito? Perché ho cercato i vari posti, ma niente. Ho chiamato anche fuori una ditta e mi ha detto che non le facevo più, ma trovavo un po'. Comunque se la trovo un'altra me la compro, perché questa non è che mi piace più di tanto. No, va bene Tony, il problema è che il materiale è più scarso, dai, non è cazzo quello robusto della manta, ma c'è poco da fare. Sì, ma è così, ma comunque. Avanti Marco. Eia, vabbè, è fatto apposta per contenere il peso, diciamo non scarto il materiale, più sottile. Però è leggera, io proprio volevo roba leggera, 2,5 kg, buccia e tutto, la Mantova siamo già sui 5, perché io non volevo tirantare, capito Tony? Tiranti non ne volevo, e l'ho messa in un palo basso da 3,5 metri, di cui 1,5 metri è aderente al gabbiotto, e ne spuntano 2 metri dal gabbiotto centrale del terrazzo. Niente tiranti, niente di niente, però quello che mi frega a me è che ho 50 metri di cavo. No, io ne ho molto poco, ne avrò 12 metri. E niente, sui metri di palo perché ho il pezzo del muretto attaccato alle mie estate, parte da terra, il tubo. Ma non è su via 4 metri, non mi piaceva che c'era l'altro tetto e quindi era fastidio, allora 6 metri, io ho messo l'altro tubo da 2 pollici, ho forato da parte in parte e ho messo 2 bulloni, quindi perfetto. E più, dove c'è la giuntura, gli ho messo un altro vulcanizzante. E siccome il palo da 2 pollici era più grande di quello da 1/4 pollice, quindi automaticamente ho messo prima il silicone, fatto asciugare, poi ci ho messo tutto un altro vulcanizzante. E anche sopra un tappo ci ho messo, e vulcanizzato anche quello, perché domani quando piove non entra l'acqua dentro, si arrugginisce. Le precauzioni le ho prese, ho detto non che la piazza bene. Ehi, poi questa antenna regge anche pochi watt, questa è dichiarata di fabbrica 500 watt picco picco, che vuol dire anche in banda laterale, non continui, continui io, non mi fiderei di darne più di 150-200, non. Non è fatta per potenze, dai, d'altronde mi, finita l'epoca delle potenze. Diciamo che puoi fare DX in banda laterale solo a tripla 5 in estate, di più che altro in primavera. Primavera, prima dell'estate, qualcosa si riesce a fare. Anche se siamo lontani dal ciclo solare, come Gianni, ciclo un decennale, no? Più macchie solari ci sono e più fai DX, più la propagazione è forte. Capo. Ma a proposito di DX, ma voi se facete DX? Aspetta, non ho capito, sì che ne trovi di gente, dopo i 40 canali, 27555 è il canale di chiamata, USB, e trovi un po' di tutto, tutta Europa, anche oltre, solite cose, no? Chiedi dov'è, gli dici le condizioni, il lavoro, il segnale, è finito lì. Sì, ma ci trovo ancora una casella postale, il PO Box, perché io a me dare indirizzo, nome e cognome, proprio non mi va. No, infatti, no, sai cos'è, non mandano cartoline, non so se qualcuno le mandi ancora. Qualcuno mi aveva dato l'email, ma cosa ne so io se è un sito a trappola poi. E più che altro ci si scambia il collegamento così, via etere, e poi ciao e saluto da Massora. Non niente, scambio il QSL. Allora Gianni, tu niente ne sai, io so che ci sono gruppi che fanno di ex, tipo il gruppo Alfa Tango, il gruppo di Roger K, però non so come si scambiano le QSL. Io credo che diano un'email, non è prudente, è come dare l'indirizzo di casa all'email, è come dare i dati della carta d'identità. No, io so che non le stanno più mandando, io perlomeno non le sto più mandando. Io ho i miei ricordi in una scatola, tu dici, tutte le QSL che ho fatto, quelle che hanno mandato le cartoline che le ho rispedite, però P.O. Box 492, che praticamente mi era appoggiato, non mi ricordo a chi, a Gianfranco Battimola mi pare. E io vorrei, mi sembra che c'è un altro messo via Polizia dove ci sono le case riposate in affitto, e se la trovo qualche giorno ci vado, me ne prendo una in affitto anch'io. Sì, comunque se il gruppo di Alfa Tango eccetera, come si era Tango lo stesso, automaticamente è un P.O. Box soltanto, una casella postale, tutti sono associati lì, e quando fanno l'DX va là, poi c'è uno che è addetto, uno dei soci che prende tutta la posta e poi va smistata, più che così non può essere. È probabile. Naturalmente, diciamo, lasciano correre, no? Perché lì si parla oltre 40 canali, no? Però se si volessero attaccare, per questi tempi privacy non è più né bancaria né nulla, cioè se volessero fare un raid, vanno dove c'è la casella postale, si fanno dare i dati di chi la usa, farebbero una strage. Non lo fanno perché non c'è il tanto, ma se volessero potrebbero far danni quelli delle poste. Vabbè, a me proprio non è che faccio fare il bacio 2030, quindi. E poi con questa storia del marchio CE hanno rotto le scatole, cioè i vecchi omologati non sono più validi, ci deve essere la marcatura CE. Praticamente quello che aveva Natalino aveva le emissioni a norma, però era dei vecchi omologati e li hanno sequestrato, e dice che ci vuole per forza questo marchio CE. Ogni tanto cambiano le cose, vabbè. Anche a me Natalino mi ha detto questo particolare qua. Sì, ma senz'altro l'avranno fatto perché per vendere apparati nuovi e incassare soldi. Forse qualche ministro aveva qualche amico suo, capito? Ti faccio vedere un po' di apparati nuovi, togliamo una legge nuova che ce la piglia luci. Però aspetta, ci sei ancora? Ehi, io sto mangiando, ci sto ascoltando. Oh, ma datelo qualche manino, non è arrivato come 2-3 baghetti per caso? No, no, è meno carico, ho quasi finito. E ha già fatto un panino, tipo quello di Renato, da un chilo e mezzo. Panino con montone intero. Eppure ne ho voglia di mangiarmi un panino così da Renato, e sono da un bel. Oh già, quando vuoi, passo, ti prendo e te lo mangiamo. Sì, Antonio, non mi posso sedere ancora io, capito? La mossa di sedermi in macchina, non posso farla. Se no non l'avevo abitata la macchina mia. Uia. Non posso sedermi, ancora devo fare un po' di fisioterapia. Guarda Gian, mi sta per scappare una battuta a me, meglio che sono io. Almeno che abbia un furgone. No, per dirti, è anche con un culo mangio un panino. Sì, ma devo bussarmi in macchina, non venga a piedi. Anche in piedi si può mangiare il panino. Ho capito, ma da Renata ci dobbiamo arrivare da casa. E poi ci vuole un salvagente di Bongo. Salvagente? Vabbè, non c'è problema. Già lo facciamo una volta, non c'è problema. Quando mi riprendo non c'è nessun problema. Sì, dai, qualche giorno si può organizzare qualche seminata comunque qua, qualche rostita già. Se lo fa, adesso che lo dimmi è libero. Io il posto ce l'ho anche abbastanza ottimo, quindi. Luce non ne parliamo, faccio l'elettricista, capirai la luce che c'ho qui, cavolo, tutto quanto a lente, fare pareti. Lo so, tu sei insieme a Roberto. No, Roberto c'era a me, lui era un altro gestore calore, però automaticamente non so cosa ha avuto e l'hanno risbattuto con noi, ha rotto roba di 5 macchine, tutte distrutte e se sta pagando l'azienda. Cazzo, allucinato. Ha detto che col sindaco di Sassari le viuzze di Sassari non le ha allargate, quindi le ha allargato lui. Ah, così, ah, non è detto che ha pigliato male la mia. Oh, yeah. Beh, Roberto c'è, mi sembra 17-18 anni a fare del genere, io sono 22 anni. È un bel mito, oh, yeah. Ne sono passati, ne è passata acqua a 70 punti. Gli anni passano, ma ripeto, stiamo invecchiando, dai, i capelli bianchi già ce l'ho, ma non me ne frega niente, mi sento giovane. Ancora, grazie a Dio, la memoria funziona bene. Appaga. Beh, noi siamo a cubicciolo. Vabbè, abbiamo una certa età, non siamo anche ragazzini, anche quello è vero. E tu, Marco, che ci dici? Ah, io ne ho molti meno di voi di anni, ma mi sento vecchio. E la memoria non è buona. E questo vai. Apu, per compensare con voi? Non lo so, così. Io, vabbè, sono molto lamentoso. Insomma, difficile da spiegare. Dai, che stai tranquillo, se tu frequenti Gianni, frequenti a me, frequenti a qualche altra persona, vedrai che la guida ti cambia. Addirittura. Bene, signori, io rimango in QRX, vado come in cucina a raschiare il fondo della pentola, dai, che non sono ancora soddisfatto. Vi ascolto, riprendete. Una volta mi ricordo bene, Marco, dai, Marco, vai, tranquillo. Una volta mi ricordo bene che mi avevo rimorchiato una tipa e avevamo l'appuntamento in una discoteca, cazzo, ne è apparso Tonino con la maschera da carne e pane. Bastardo, avevo ascoltato tutto il discorso. Dopo me la spieghi meglio perché non me la ricordo. Aspetta qua. Ciao Marco, buon QRX e buon raschiatore di pentola, chi c'è fame? Adesso che ti smetto un bagnino e quindi lui c'è fame anche lui. Profeta, questo bagnino ancora sta mangiando. A posto. Gli ho dato l'ultimo assalto. Sì, era buono, dai, ci voleva. Niente, me lo sono sbranato molto volentieri. Anche io stavo ascoltando mentre stavate parlando di Renato e Paninotte che va, anche io sono una vita che non mangio più roba del genere. Ogni tanto mi viene la voglia di provare certi sapori. Già so pure i panini, però non è che si può mangiare sempre i panini da Renato, perché meglio che se lo fai a casa tua, quello al mille per mille. Ok, qualche volta si può fare, ma non è più di tanto. Non è perché il costo di denaro, perché non ce ne frega niente del denaro. Però, ripeto, meglio sempre, sai quello che mangi quando lo fai a casa tua. Vero già? Eia. Quello che ti stavo dicendo è che una volta mi avevo rimorchiato questa tipa al baracchino e stavamo parlando di notte e ci abbiamo dato l'appuntamento perché non conoscevamo il numero di telefono. Ci abbiamo dato al baracchino, dovevamo trovarci alla discoteca di Ussi. E ne sei piombato tu, bastardo, allora che dovevo trovarla con la maschera da vecchio, me lo ricordo ancora. E mi ha detto, dai, presentala anche a me, che è bastardo. Sì, avevo la maschera da scienziato pazzo. Sì, da vecchio era. Ma poi già ce l'avevamo trovato in un'altra parte. Siamo scambiati il numero. Vabbè, io ci credo ogni tanto, capito già. Ci sono donne, gli da cantona. Che vita. Poi c'erano gli innamorati pazzi che parlavano di notte, cazzo, roba di ascoltoni. Ogni tanto ne sia uno, ma in mia adesso lui dice di... Allora, ti dico un piccolo particolare di tantissimo tempo fa. C'erano tre tizi che parlavano baracchino, due donne e un uomo, non voglio fare i nomi perché non erano più baracchino, non stavano neanche più modulando. E io mi trovavo in mezzo, praticamente. E questo qua mi ha rotto le palle e hanno detto a me, tu per un anno non ci parli. E diventava l'importante e non ci parlava mai. Ma qualsiasi notte è tarda, guarda, lui entra a mezzanotte, lui attacca, niente importante. Dopo un anno già, ha detto a me, adesso ti lascio parlare. Un anno è scaduto, puoi parlare. Come lasciato il microfono, cazzo, mi ha detto roba di 50 parolacci. Ho detto, ho capito. Tu hai finito di parlare a vita, non ci parli. fate più. Tanto è vero che voi, con qualche altro CB, siamoci di notte, lui abitava più a terreno, ci ha mandato a casa sua, da fuori aveva tracciato l'antenna. C'era Don Diego che faceva un po' di casino, te lo ricordi, che descriveva quello che stava leggendo, si leggeva i giornali pornografici, descriveva tutte le immagini, era buco buco. Don Diego, a proposito pure, quando ha rotto le palle, ci sono salito sopra da solo a casa sua, lui era mica con un gobetto, il proscio, che l'ho conosciuto in carcere. Insomma, l'ha buttata la porta, l'ha messa socchiusa, tra, guarda che io te l'ho preso, non c'ho paura, l'ho preso. Ha giocato la famiglia Raiana, la cipiglia da faccia. Non ti permettere più, mi ha dato un ciocchino, ha preso un cibo. La roba che mi ha dato, l'ha girato, non ne fa macchine, l'ho compreso, Tomà, che cazzo. Allora ci ha chiamato i carabinieri una volta, siamo andati ai fuori Luca e ci ha chiamato i carabinieri. C'è tutto scemo, Ma non sei gli appartamenti in cui c'aveva, non so che fine ha fatto, è sparito la giocazione, perché poi il commento è morto. Gli ha lasciato tutto, gli ha lasciato. Era diventato ricco, se ne ha saputo gestire quello che aveva, se ne ha fatti di un obbediente, perché quello lì era ricco, quel fruscito. Diceva che se non fosse stato per il piccolo problemino che aveva, sarebbe stato più bello di Sassi. Ma guarda, io allora so che lui c'era messo con una tipa che gli ha mangiato anche l'anima dell'osso, un casino, e poi non so che fine ha fatto, se è rimasta con la terra o si è tenuto un appartamento solo a voi, Pietro Italia ne aveva 2 o 3 di sempre, non me lo ricordo, comunque non ho più visto. Allora io mi ricordo quello che c'era di fronte a via Damiano Filia, quella traversa che c'è quella traversina, visto dove c'era Maria Medù, un po' prima c'era una traversina, si entrava lì e risultava di rimetto il palazzo. Mario e Medù? Sì, Maria Medù, poco prima c'era una traversa, si chiama via Damiano Filia. Ma Maria Medù abitava, guarda, i piedi Mitrevi. No, sto parlando di, non di Maria Medù, no. Quello è il riferimento. Cosa, Don Diego? Ah, lo dico, era sul Lune Sole, era. In via Garavetti, credo, abitasse. Più o meno vicino a casa tua, Marco. Meglia. Era infatti il Lune Sole. Sì, più o meno, sì. E secondo piano c'era un terrazzo, se mi ricordo, io sono piano forse, non mi ricordo. Sì, però ripeto, non l'ho più visto. Non è che mi ha giù messo assai, Torino, adesso ti dico una cosa, vediamo se ti torna alla mente qualcosa. Sarà dentro, Torino. Ah, boh, è delusa. Tendine verdi. Cazzo, non me lo dire, non ci credo. Questo era... che c'aveva il figlio Marco. Sì, tendine verdi, ciao, tendine verdi, e mamma è quella. Chi? Mamma. Tua madre. E quanti anni sono passati? Beh, tu conta che noi siamo entrati nell'84, estate dell'84, inizio estate. Fate il conto. Allora, io col portatile, la prima volta che ho beccato Falcone e mi ha fatto il trattamento, no? Invece mamma è andata peggio, ha beccato Gavino Dinamite, un'altra bocca di scandalo. Cazzo Gavino, fa carezzacci. Allora, io ho avuto qualche parola con tua madre, però ripeto, tutto Roma pulita, capito? No? Sì, mi divertivo a sentire bene, mamma, non c'è altro. Mi ricordo, ma poi appena entrava una nuova c'era la flotta di gente, veniva che andava da ogni donna a conoscerla, era una cosa allucinante, ogni Abramitti, già ti ho sentito che è soprammodulato a Marco. Ciao già, buon cuore Dio, cuore X, se ci siete più tanti all'interno, se entri e buon carica batteria, alle prossime, stare bene già. Ciao, buona serata. Ciao Gianni, buon collettivo, buon tutto. E quindi Marco, ma sempre tendine verdi, sempre gli abiti? No, adesso abitiamo una traversa più su, l'antenna è più in alto, il palazzo è più in alto, tutto in salita qua, no? All'epoca noi avevamo una Grand Plane, 3 radiali, cioè prima importabile, subito dopo la Grand Plane 3 radiali, ma era tremendamente bassa, eravamo immersi in mezzo ai palazzi che ci coprivano. Poi all'epoca mamma usava un baracchino americano, si chiamava XTAL 23 canali, usciva bene, forte, limpido, ma disturbava tutta via Nizza, ma non una casa, un palazzo, tutta da giù, e noi eravamo via Le Mameli. Addirittura via Nizza, ma viene che è tutt'altra parte di Le Mameli? No, una a fianco all'altra, sono traverse di Viale Trento. Viale Mameli più giù è una traversa, più su è via Nizza. Tutti i palazzi che c'erano riuscivano addirittura a disturbare via Nizza. Allora te ne racconto un'altra, no? Ed era solo questo baracchino che disturbava, questo americano. Io una volta sono andato al cinema Ariston a guardarmi un film, e nelle casse del film si sentiva, nonostante fosse bassa, la vocina di mamma che modulava. Quello del cinema non ne poteva più la vita, stava cercando di scoprire chi era questa che entrava nel cinema, nell'amplificazione del cinema. Sì, che toga. Oh, yeah, l'Ariston, ma tu mai lo sapevi modulato comunque? No. No, è grande, un po' anche invecchiata male, capito? Hai fatto tutti chiami Marcolino perché eri piccolino, adesso sei Marco perché sei più grande. Dicevo, comunque ci è andata bene come primo impatto, cioè appena accesa la radio, io Paoletto, gioco calzetta, ha cominciato, ma sei peloso. Io ho detto, ma questo deve essere... te l'ho detto, lì ha beccato coso, che era lì ai portici, no? Come si chiama? Te l'ho nominato prima, porca miseria, Gavino Dinamite. Gavino Dinamite. E il mio Dinamite se l'ha vista male anche una volta, che il gatto Silvestro l'ha inseguito con la mancette. Allora lui l'ha preso a lavorare, lui... cioè dei lavori che lui prendeva pochi operai che era disoccupato a lavorare, e lui figlio di Scaglia andava a casa della moglie a cercare di farsela, ma quando l'ha scoperto poi il gatto Silvestro gli ha appiccicato giù la mazza. Comunque, come dico sempre, erano bei tempi, perché sì, certe volte non riuscivi a parlare, ti incavolavi, ma ti divertivi pure a ascoltare. Infatti io poi ero piccolo, non conoscevo nessuno e ascoltavo molto. Ti ricordi anche Ottavio, con quel vocione da orco? E c'era anche Ancora, che Dragolo diceva ancora, sì, ancora, non mi chiamava il culo. Eh sì, quindi Maoletto ti ha anche battezzato, ti fate il gioco della calzetta, vedi? E cosa vuoi di più? Sì, ma era una pandemia, cioè ogni ragazzino entrato non se ne salvava uno, sembrava che avesse il radar Paoletto, e a tutti il stesso trattamento. Ti posso chiedere una cosa, no? Prima discretamente, dice, ma sei peloso nelle gambe? E lì, babà, dice, ascolta, ti posso fare un gioco? Dice, comincia a abbassarti la calza, io gli facevo sentire i capelli, così facevo. E faceva la grattugia, già me lo ricordo, per carità. A me giocare la calzetta non me l'ha mai fatto, perché una volta che stava permettendo a me, se iniziano per le mani, se non ci metto la portata, e tu non ci pare mai più in vita tua. Quindi sono stato molto più... pensi che erano tempi, comunque, là c'era più gente, si facevano più giochi, più tutto, c'era portapetto, c'era tutto. Adesso invece no, poche persone, la CB è andata a farsi friggere, solo la verde non c'è più, è rimasto Gio Maria Figaro, poi il passero non c'è più, è morto, e chi c'è rimasto? Cerotto non l'ho più sentito, poi Friccia, già li Frecciano, non ho più sentito, non c'è più il baracchino. C'era il CB, parecchi. Luisito, addirittura dal 74, abitava via Sicilia, forse è morto, c'è la gente. Qua dei vecchi, diciamo degli anziani dell'epoca, che ti posso fare di nomi, che c'è ancora, Bacchisio c'è, che modula su 23, ma sono tutti spariti, vabbè, o per l'età, oppure Molti non erano amatori, molti erano dei semplici consumatori come sono quelli dello smartphone. Cioè all'epoca quello c'era e quello usavano per comunicare, per conoscere, per acciuppare e tutto quanto. Però passato il baracchino sono passati prima i cellulari, con i messaggini, il telefono, poi internet, eccetera. E il baracchino è diventato una cosa da mosche bianche. Proprio siamo quattro disperati, siamo rimasti. Vabbè, anch'io ho abbandonato perché ripeto, ma no, niente, mi sono dato di, diciamo, a tante altre cose, mi è venuto un po' di ansia, diciamo. E il dottore ha detto, no, io non ti voglio dare le pastiglie per l'ansia, quindi tagli di curare te stesso. E come faccio a curarla? Dice, va, devi scegliere un rubi. E piano piano vedrai che pensi altre cose e non pensi altro. Ok. Mi sono dato al biliardo, sono arrivato al mio, vince due volte medaglie d'oro, poi dal biliardo alla pesca, poi dalla pesca per un po' di anni mi sono dato anche alla moto, ho fatto moto raduni, poi me la sono venduta, ne ho ripreso un'altra, poi me la sono venduta, insomma casino, sempre cambiato, poi internet, computer, poi cambiato di nuovo, sono di nuovo iniziato di nuovo col baracchino, poi tante cose, vedo che cambi, automaticamente non pensi più a niente perché se c'è qualche pesazione ti passa e quindi sei più tranquillo. Ecco perché il baracchino, cioè, non è che mi interessa più di tanto, intanto sì. Ci pensavo, ma intanto non ci sarà nessuno, perché tra poco qualche picchio cimice non c'è più nessuno, allora è che sono poco a fa. E così il tempo è passato piano piano. Ma in realtà diciamo dai, qualche duomo già c'è ancora, e mi fa piacere sentirlo. E infatti no, non vedi più macchine con antenne, tranne la mia, che ci metto l'antenna VHF con ricevitore, e quando vado a Platamona al Viero mi ascolto i radioamatori. Poi avevano tolto l'obbligo delle SWL, non c'è più, non è obbligatoria. Prima addirittura dovevi impiantare e detenere il ricevitore a casa, era una cosa molto limitante. Adesso te lo metti in macchina, te lo porti portatile, quello che vuoi. L'importante è che ci siano memorizzate solo esclusivamente bande amatoriali. Poi, comunque anche volendo non senti altro, non senti altro perché sono tutti sistemi digitali, è tutto sparito. Bene, Gianni ci sei, riprendi? Ehi, sono qua. Sì, vabbè, anch'io... non ho la memoria lucida come quella di Doppio Room, però adesso mentre stavate parlando qualcosina riaffiora nella mente, ma sono ricordi molto fugaci, proprio tipo foto sbiadite, roba del genere. Comunque anch'io ricordo tutto il tran tran che c'era al periodo, poi vabbè anch'io per tutta una serie di motivi ho mollato e niente, insomma, come sa Marcolino, insomma, per tutta una serie di coincidenze sono rientrato a distanza di anni. E niente, dai, come si dice, è come i panini di Renato, sai, dopo tanto tempo riesce a dargli un morso e così il baracchino, dai, questo per quanto riguarda me personalmente, quindi niente, dai, ci sta ogni tanto ricordare i tempi passati. Io non sono il Doppio Room, ma ecco, ho detto. No, ho detto, come stava raccontando Gianni poco fa, dico, anch'io ho delle fotografie in bianco e nero molto sfocate dell'epoca CB, l'era d'oro, dai, diciamo. Ah, capito. Ma c'ero molto prima di Gianni Doppio Room. Io sono dal 74 addirittura. Figura di due, vabbè, io sto parlando di metà anni 80, 85, 86, insomma, dopodiché, insomma, ho accumulato tutto. Marco, tu te lo ricordi a Rosa Verde? Mi ha confermato Gianni che era precedente al nostro ingresso e ci ha raccontato tanti aneddoti, appunto, che modulava da quella... una casa di fortuna, non so, un monolocale, cosa era, se era una cantina, usava il dipolo e tante altre cose, se non ricordo. La portante d'oro aveva un Tokai 5024, abitavano attraverso il corso nello sgabuzzino in piano terra e siccome rompeva le palle a tutti quando mettevo il 5024, Calino disturbava occasioni di gente. Si era fatto anche una bella fortezza lui, chi è che andava a toccare la maniglia rimaneva fulminato, perché lui ha messo un bello pezzo di ferro all'intero, me l'ha fatto vedere, attaccato alla falce, e tutto ferro grosso dall'altra parte della porta, lui lo incrociava con un bel condensatore, se non scattava il contatore, e quindi era un tipo piccoletto, molto ricciolino, capelli bianchi, vecchio CB comunque, ma casinista, intelligente come elettronica, perché era molto intelligente. Sapete i casini che faceva e lui riusciva a fare tutto. Cioè, questo ha messo la 220 in fase neutro in modo da rimanere folgorati se in caso di aggressioni, così è. Certo, infatti qualche persona voglio fare nome, siccome le ha rotto veramente le palle, le ha cercato anche la moglie. Adesso ti faccio morire il rosso, ti ha buttato un po' di benzina sulla porta, l'ha incendiata. Il cavolo. Sì, dai racconti corrisponde alla descrizione. Purtroppo non l'ho sentito. E poi tanti aneddoti, ogni tanto ne ricordiamo qualcuno. Bisticci anche tra mogli di CB, feroci. Più feroci di quelli degli uomini erano. Mamma mia. Era un casino comunque, dai. Ma comunque, niente, ci facevo anche caccia al tesoro tempo fa, tantissimo tempo fa. Era un'altra cosa. C'era meno malizia, dai. Era più bella, più cava la frequenza. Poi piano piano si è incasinata, poi è sparito tutto, insomma. Molti non modulano più perché sono talmente anziani, non è più sana. Molti invece hanno venduto tutto, come io non c'avevo più niente, poi piano piano anche se avevo la roba, più di un anno è rimasta ferma la roba che c'avevo io, perché ti ripeto, piazzami tutto da capo, no, ma guardati in campagna ne passava, fermarsi, dai. Adesso qua in campagna ho detto voglio provare, se arrivo almeno a Sassari, ma vedo che ci arrivo bene, meno male. Sì, ha voglia, non ce n'è problema. Poi non ci sono più gli splatter di una volta, a meno che tu non prenda qualche splatter da zona latte dolce, che lì c'è, sono 1, 2, 3, 4 persone almeno che modulano sul 23. Ecco, chi c'è rimasto? Mario Mauro non c'è più perché è morto. Giovanni e Figaro c'è rimasto. Guarda, non certi non li ricordo. Mario Mao sì, era morto tanti anni fa, e poi io pochi ne conoscevo di CB perché ero piccolino. Pensa che nell'84 avevo 13 anni, non avevo neanche l'età per modulare, potevo modulare dall'85 in poi, per dire, no? E avevo una greffetta di amici nostri, giovani, sempre se ne stavamo su un canale solito, portanti permettendo, eccetera. Così è il tramonto di un'era, il tramonto proprio di un'era. Comunque fa piacere che io ho fatto a te la voce proprio quando è Marco, però non lì per lì. Se tu mi dicevi tendine verdi, stai tranquillo che dovrei rimanere conosciuto. No, una volta avevo beccato con Gianni non le sole, sai, aveva fatto una battuta colorita e lei ha risposto. Gianni ogni tanto entra in VHF, lo sai che lui era diventato radioamatore, raramente lo sento in VHF con gli altri radioamatori, però Baracchino non credo che ne abbia nemmeno più uno. Sì, Gianni automaticamente aveva preso il patentino, lo so. E anche Walter Salvucci, anche Walter Diabolik, si è preso il patentino. Dice che la frequenza è molto meglio, e vabbè, a me andare a studiare per andare a Cagliari, non me ne ha fatti nulla. Il baracchino è più portante alla mano, quindi è più facile, dai, a me andare a studiare poco mi piace. Eia, nonostante adesso sia un po' più facile, prima dovevi fare il compito scritto, mi pare, adesso devi rispondere alle domande, no? Mi pare che hai forse 3 voci per ogni domanda. Non c'è più il CV doppio all'esame. E Walter ogni tanto entra a salutare, a fare 2 chiacchiere anche qua, voglia. Bene, Gianni, dai, riprendi un po', io qua fra poco chiudo. Vai Gianni. Per Tonino, se si può se ti posso chiedere, che antenna stai usando attualmente? Ma guarda, se ve lo dici un'altra volta lo manco te lo dico. Non lo so, un'antenna che ho preso la CBC, una 58 d'onda. Tu manco lì, non ricordi che antenna fai, boh. Allora Gianni sta usando la Energy 5 ottavi, la stessa che ho io, che ha Natalino, che ha Eugenio di Polo Torres, quella leggera, 5 ottavi di tipo leggero. KK, ho capito. No, no, adesso guardando il segnale, vabbè, più o meno dove sta uscendo, è un bel segnale, dai, qua arriva forte, più o meno avete lo stesso segnale, dai. Niente, era giusto una mia curiosità. Vabbè, io ho una boomerang, anche quella da 3 metri, con il radialino puntato al nord, quindi va bene, dai. Io sono dopo San Camillo, devi considerare. No, quindi no, già arrivi forte, dai. Va bene, il segnale è bello potente, dai. Ok, sto usando un microfono da 13, di un Intec che hanno adattato qua, tutto qua. Va bene, e poi si sente che è un po' scatolato, però già va bene. E come radio cos'è, se si può dire? Guarda, tu stai arrivando forte qua, 920 radio 5 poppa. KK, bene, sì, me l'hai detto anche poco fa, evidentemente come ho girato il radialino, perché prima ce l'avevo girato verso ovest, poi ho messo a posto, mi si era spezzato il radialino di punta a causa del vento, e questa volta ho messo il radialino verso nord, e vedo insomma che va meglio, dai. Comunque io sto utilizzando un Apache 8030 col BIP incorporato, modificato. KK, bene mera. Va bene, dai, Marco lì, ci sei ancora? Ehi, fra poco vado a guardarmi un pochino in TV, qui sono le 9. E se non c'è roba buona mi guardo la roba mia. Contate naturalmente, lo dico per cronaca, io a parte 50 metri di cavo sto usando un filtro anti-GY, non ZG, però un po' più serio, tra virgolette, e l'ho messo per sicurezza, e quindi di 4 watt che ne entrano ne escono 3, più 50 metri di cavo forse ne arriveranno 2 seppure. E quindi quando dico che ho 4 watt in realtà non sono reali i miei 4 watt, sono attenuati dal filtro, attenuati dal cavo, eccetera. Però quando ci attacchi la scarpettina già migliora anche, è abbastanza. Comunque Marco, c'è 50 metri di cavo, un po' di distorsione, te ne vado forte. E il cavo è il 213, RG 213. No, io avrei preferito mettermi il RG8 che è il migliore. È che l'8 quasi non lo trovavo più, questo è più grosso dell'RG8 mi pare, e poi c'è l'H1000, stesso diametro, ma è ancora migliore, se io l'avessi saputo avrei comprato l'H1000, era pochissimi centesimi di differenza al metro. Scusa, ma se è più grosso dell'RG8, come cavolo facciamo a entrare su PL? Ci sono i PL predisposti. A meno che l'RG8 non sia pari al 213, sai che non me lo ricordo. Non me lo ricordo perché io non l'ho mai visto dal vivo l'RG8. Davo per scontato fosse più piccolo del 213. L'RG8 era grosso quanto il mio mignolo, che ce l'ho sopra. È bello grosso era. Diciamo che avrà un diametro, penso, da 10 o 12. No, può essere che sia lo stesso, dai. Va bene, dai. Signori, io chiudo che sto perdendo quota, come sempre a quest'ora. Ci sentiamo le prossime, ok? Ciao Tonino, ciao Gianni, ciao a tutti quelli all'ascolto. Ci sentiamo alla prossima qua. Vai Tonino. Ok, ciao Marco, stammi bene, salutami in Corea. Ci sentiamo alle prossime, mi ha fatto molto piacere sentirti, dai. Buon X, come vorresti, buona TV, avanti già. Eia, mi dispiace Tony lasciarti solo, però ne volevo approfittare anch'io, dai. anche io stacco, faccio QRT, mi ha fatto piacere risentirti, grazie della chiacchierata, dai. E anche oggi abbiamo timbrato il cartellino. Grazie alla chiacchierata, Antonio, a Marco, a Gianni e tutti gli altri ascoltoni. Ci aggiorniamo quanto prima. Ok, buona serata a tutti, grazie. Ok, già, non preoccuparti, che io quando sono che paracchino ho altra cosa da guardarmi qua. TV, computer, ce n'è roba, non c'è problema. Lui sta seguendo quel cinema, canale 34. Vedo dei figli anni 60, 70, farò sempre ridere. E mi fa piacere di vederti. Ok, buon QRT, dai, ci sentiamo. A grande piacere sentirti. Alla prossima, stai bene. Ciao, ciao. Ciao.